un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Care compagne e cari compagni, ci eravamo smarriti, ci siamo ritrovati. Mentre l'Italia, caro Parenzo, si interroga su problemi molto, molto seri, come sai, no? Molto, molto seri, siamo al centro di una tempesta finanziaria, con la manovra, eccetera, eccetera. Il signor Vendola, invece si interroga su un'altra cosa: come bisogna chiamarci, compagni o amici? Beh, è una cosa molto seria, è un interrogativo molto serio. Ne sai qualcosa anche tu, Parenzo? E come no? È un interrogativo profondo che interroga il DNA della sinistra. Insomma, dice Vendola che siccome la parola compagno si è sempre associata ai crimini, eccetera, in realtà è meglio, bisogna rivalutare la parola amici. Poi in realtà ha smentito, ha corretto come al solito, come fanno tutti i politici, compresi quelli che si dichiarano puri e diversi dagli altri. Cioè, però, insomma, una smentita sulla parola compagno. In realtà fino a febbraio, senti come chiamava il compagno Bersani, Compagno Pierluigi Bersani, possibile che provare ad alzare gli occhi verso un orizzonte un po' più ampio significa dedicarsi alla poesia? Compagno è un problema troppo delicato. I problemi di Vendola, bisogna chiamarsi compagni oppure amici, che è forse più moderno. In realtà amici si chiamavano i democristiani anche durante la Prima Repubblica, dunque non è un termine proprio nuovissimo. È vero che i comunisti lo odiavano, ma i comunisti lo odiavano un po' perché dava un senso, no, di diversità rispetto alle loro ideologie, ma anche appunto perché lo utilizzavano i DC. Ti faccio sentire, perché voce canta e parola canta. Però, scusa un attimo, dimmi, compagno in Francia non vuol dire camerata. E camerata vuol dire compagno, certo. Ma non mi sembra comunque un tema su cui si arrovellano le persone ai bar. Un tema fondamentale. Discutono tutti di questo. Volevo sentirti dire proprio questo, vedi che ho scatenato in te. Andiamo avanti. Ti faccio sentire una cosa bellissima. Sai che aumentano i ticket al pronto soccorso, no? Sia per il codice bianco, sia per le visite, eccetera, eccetera. Io non so se sia una vergogna. Che è una signora di 60 anni, una vecchia, un'anziana, una signora che ha pagato, ha lavorato col sudore della fronte e guadagna 1200 euro al mese, che questa signora debba pagare il ticket. Io dico solo una parola: governo, ascoltami, governo tutto, governo, vergogna! Vabbè, adesso proprio non è così la signora anziana, ci sono diverse... una donna anziana, è più complesso, il tema è più complesso. Però è il principio, in questo caso è il principio che conta. Allora ti faccio riascoltare un Tremonti dell'ottobre del 2006. È straordinario, 19 ottobre 2006. Tremonti cosa pensava del ticket al pronto soccorso? Voilà. La sanità deve essere generale perché è un bene pubblico, e se tu paghi le imposte, paghi anche le imposte progressive, metterti una sovrimposta come il ticket per gente che, credetemi, io non so che conoscenza ci avete voi, io credo di conoscerlo abbastanza, uno non va al pronto soccorso perché si diverte. Magari non c'ha davvero il male, ma pensa di averlo. Guardate che spesso il pronto soccorso è l'anticamera dell'inferno. Uno non va lì perché vuole risparmiare sulla prestazione o perché vuole trascorrere qualche ora in un luogo allegro. Secondo me è profondamente ingiusto. Capito? All'epoca c'era il signor Prodi al governo, 19 ottobre Bravo. Del 2006. Bravo, questo è il servizio pubblico, questa trasmissione, Vabbè, adesso servizio pubblico. È servizio pubblico. Allora, fino a chiaro, Berlusconi come Paperoni nella cassaforte che piange oggi alla Senato. Dov'era? Sì, al Senato, senatrice Finocchiaro. Sentiamo. Il vostro presidente del Consiglio è rimasto chiuso nella sua cassaforte come Paperon dei Paperoni abbracciato al sacco dei dobloni piangendo perché glieli stavano portando via. Le metafore della Finocchiaro. Berlusconi non parla perché è rimasto lì a piangere come Paperon dei Paperoni cui stanno portando via il tesoro. Va bene, insomma, questi discorsi, queste metafore fanno parte del dibattito pubblico, della vita parlamentare. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo ancora da offrire? Vabbè, un Enrico Letta che dice i mercati preferiscono le elezioni. Questo non lo so, eh. Enrico Letta, sentiamo. I mercati chiedono certezze. Al limite preferiscono elezioni, sapendo che le elezioni poi dopo creano un quadro di certezze. Lunedì per noi si chiude questa fase. Si chiude vuol dire che Berlusconi non è più in grado di guidare il paese, il governo del paese. Credo che parte dell'attacco dei mercati sia legata alla consapevolezza di un governo che non è in grado di farcela. Bene, bene, ma il vero mito di queste ore è l'avvocato della Minetti. L'avvocato della Minetti, caro Parenzo. Cosa ha detto ieri? L'avvocato, della Minetti? L'avvocato della Minetti, il signor Corso. Che cos'è? L'ambulanza che ti viene ma a prendere? Ma che succede? Cos'è? Stai calmo due minuti, sto telefonando alla Zanzara. Scusa. Chi è? Sei sul taxi per venire qua? No, ero... No, adesso tra poco lo vedo. Ero in mezzo alla strada, effettivamente non c'aveva tutti i torti, perché ero proprio in mezzo alla strada. Sì, però sbrigati, ti sto aspettando. Il professor Pier Maria Corso, all'udienza preliminare del caso Rubi, ha parlato anche alla televisione, eccetera. Insomma, cosa ha detto poi di sostanzioso, di importante? La Minetti non era una tenutaria, riceveva vantaggi come tante altre, sul bacio saffico che c'è anche nei quadri, ciascuno a casa sua fa ciò che vuole, mi rifiuto di credere che nel 2011, dopo le battaglie per la libertà sessuale, una donna che decide liberamente di andare con chiunque possa essere considerata una prostituta. La Minetti non era tenutaria di un bordello, insomma c'è una strategia difensiva, no? È una strategia difensiva, come è normale che sia. Il che non è quella club... di negare tutto, però. Vabbè, non è quella di negare il rapporto sessuale. So. È interessante. Ma lasciamo perdere. Night club, non un bordello. No, ma se ne disinteressa della questione dei rapporti sessuali. Però sentiamolo. La Minetti non amministrava bordelli. Se ci fosse un bordello probabilmente ci sarebbe un amministratore, ma io non so se ci sia un bordello, certamente non era lei l'amministratore. Arcore è un night club, non un bordello, questa è buona, eh. È una testimone che è giovane, quindi conosce la realtà attuale dei luoghi di divertimento più di quanto non la conosca io o il pubblico ministero Forno, che ha più o meno la mia età, e che ha definito la cena di Arcore un ambiente esattamente come un night club. Se noi diciamo che i night club sono bordelli, allora sappiamo che tutti i night club sono bordelli. Se invece diciamo che night club è night club, quello era, per una testimone, diciamo così, esperta di locali, un night club. E poi altro che sentiremo più avanti, 800 24 00 24, e qui c'è un'altra cosa storica che sta per avvenire, caro Parenzo. Chi hai un'altra, come ospite? Un altro cosa momento storico, non come ospite, un ospite importante, per carità, un sindaco di una città importante del nord Italia, ma un fatto storico. Tu come tu sai, il 23 di luglio accadrà qualcosa di speciale a Monza. Oh, mamma mia. Cosa accade a Monza, caro Parenzo? Vuoi ricordarlo tu agli ascoltatori? Cosa accade a Monza? Telecamere di tutto il mondo si riuniranno, cronisti da tutta Italia faranno breccia verso Monza e assisteremo alla posa della targa, di una targa, sì. Dove ci sarà scritto Ministero, dove ci sarà scritto Ministero del Tesoro. Poi c'è un'altra targa con scritto Ministero della semplificazione. No, tesoro sarà... no, è solo due, semplificazione e l'altro come si chiama? Quindi due targhe, abbiamo risparmiato già una targa, due targhe. Sì. Poi ci sarà una porta di cartone che si aprirà, c'era un telefono finto come nei film, nei migliori set. No, magari il telefono ci sarà, questa è la tua previsione, diciamo, il telefono finto. Vabbè. Un tavolo in legno, in polistirolo, basta, sì. E tutto, poi dietro niente, una scenografia. Comunque due ministeri, riforme e semplificazione. Il sindaco di Monza, Marco Mariani, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Esponente come lotta, Mariani, della lotta come un leone. Senta, ma Monza mi sta cominciando a diventare importante, signor Mariani. No, Monza è importante da tanti anni, dei tempi della regina Teodolinda, siete voi che non ve ne siete mai accorti. No, basta, con la regina Teodolinda non ne posso più, sindaco, di stare regina Teodolinda. È stata la capitale mondiale del cappello per 70 anni. Lo so, però mi sta cominciando a diventare ancora più importante. Cioè, lasciamo perdere Teodolinda, eccetera. No, la regina no. è una delle prime quattro zone più industrializzate d'Europa, la Brianza, per cui siamo importanti per tante cose. Insomma. Sì, d'accordo, però questo è d'accordo. È vero che sta assumendo, lei lo ha detto anche, no? Un ruolo di primo piano a livello nazionale con questa storia dei ministeri, sì o no? È verissimo, è verissimo. È l'unica città citata nel decreto della Presidenza del Consiglio per quel che riguarda gli uffici decentrati dei ministeri. Pensa, è dunque una bella soddisfazione, no? Molto, molto, devo dire. Sì, molto. Immagino che i suoi... per la Villa Reale, per il rilancio della villa, a cui teniamo particolarmente. Sì. Che non dicevi, c'era Parenzo... nessuno alla villa. Una volta che piazzate lì il ministero, non c'era più nessuno lì dentro della villa, lo sa, no? No, questa non là. È vero, non è vero. Invece è tutto il contrario, perché finalmente il consorzio, dopo 66 anni, per cui dal dopoguerra, ha fatto un bando di gara per 27 milioni per sistemare la parte storica museale della villa. Sì, però... Secondo lei, verranno lì per vedere i ministri, secondo lei? No, verranno lì per vedere Calderoli, faranno la fila lì davanti alla villa? No, verranno per vedere il museo che verrà fatto con 27 milioni di euro di lavori. Sì, però non è che il museo viene fatto gratis. Cioè non è che il museo, i soldi ci sono perché arrivano i ministeri, abbia pazienza, signor sindaco. Questa è una cosa su cui dovremmo fare una grossa riflessione, bisognerebbe conoscere le cose. Scusi, però comunque l'importante è che il museo si faccia, ma e che la Villa Reale venga recuperata. Il museo è un'altra cosa, però questa storia ci appare da qualche tempo una mezza buffonata, diciamo la verità, perché prima i ministeri dovevano essere tre. Poi due, si parla di ministeri, in realtà sono uffici. Quante allora, persone ci saranno alla fine? Lei lo sa, quante persone ci saranno? Quante persone ci saranno? Io sicuramente non lo so, ma saranno poche. Ma il problema è... Da dove le prendete queste persone? I ministeri non si trasferiscono, ci sono questi uffici decentrati, che è quello, la dicitura che c'è nel decreto del Consiglio dei Ministri. E a che serve questa roba? Aprire questi uffici? Serve lasciare tutto a Roma, anche lì non serve a niente, l'abbiamo visto in 66 anni di Repubblica, non è che sia servito granché. Cioè i ministeri a Roma non servono a granché, non servono a molto, dice lei. Che voi vi state meravigliando di una cosa che paesi come la Francia e Inghilterra hanno già fatto da 40 anni, per cui non mi sembra che ci siano. Sarà meglio che in questo paese ci mettiamo un pochino alla pace, diciamo. Non ci prenda per il naso, sindaco. Ma vi state meravigliando dell'acqua calda, per cui... No, ma come dell'acqua calda? Io mi meraviglio del fatto che ci sia entusiasmi per una cosa di questo tipo. Cioè, una cosa di questo... Ognuno si entusiasma per quello che può. Perché non avete criticato il fatto che la Russa abbia degli uffici decentrati in Piazzale Novelli a Milano? L'ha detto anche lui, bello tranquillo. Ma ce li ha, appunto. Eppure nessuno l'ha massacrato. E quindi non vedo perché si debba fare tutta questa tonnellaggio di, diciamo, di ironia su queste cose. Però, per carità, se lo volete fare... Ma gli uffici della Russa non sono stati trasferiti in pompa magna con tutta sta valenza rivoluzionaria, come fosse un cambiamento? State dando voi, state facendo una pubblicità enorme. Ma ci avete fatto un decreto anche per fare sta roba? Dando il decreto l'ho fatto il Consiglio dei Ministri, mica l'ho fatto io. In questi giorni avete avuto 100 telefonate. Non fate voi tutto questo baccano e tutto viene comunque fatto... Scusi sindaco, cioè, adesso non è che la colpa è dei giornalisti, abbia pazienza, non è che la colpa è nostra, avete fatto un decreto. Per me non è una colpa, io faccio una considerazione, è arrivato un decreto del Consiglio dei Ministri, si sta ottemperando, visto che la Presidenza del Consiglio non è una carica proprio così banale, no? Così tanto per ridere, e quindi si sta ottemperando. Monza è l'unica città citata in questo decreto, è una cosa per me molto positiva, sarei contento anche l'avessero fatto a Pavia, intendiamoci bene, non sto facendo questioni... Scusate, ma i mobili poi li avete presi a Catania? Ma anche questa è un'altra stupidaggine, premesso che se anche i mobili venissero da Catania non vedo cosa ci sarebbe di male. No, infatti, ne parliamo un attimo dopo traffico, fra un secondo. Eccoci, scusi, ma in zona ci sono un sacco di mobilifici, signor Mariani, perché qualcuno non ha pensato di servizi? Guardi, la verità, i mobili arrivano da Calarate, però non è quello. Scusi, perché hanno scritto da Catania? Non lo so come mai, i mobili arrivano da Calarate, ma ripeto, anche se arrivassero da Catania, non vedo cosa ci sarebbe così di cioè lei smentisce che i mobili arrivino da Catania? Non è che smentisco, mi hanno detto che arrivano da una ditta di Gallarate, ma ripeto, non è una cosa importante, perché quelli di Catania non devono lavorare, va benissimo che la, no, che ho capito, però siccome la zona è ricca di mobilifici, mi sembrerebbe bizzarro Sì, ma non lo so io che tipo di accordi abbiano i ministeri, che tipo di appalti. Ma poi chi paga per tutto questo, anche per i mobili, per questo trasferimento di persone? È un costo in più, o no? No, non è assolutamente vero, per tutto che in questo momento sta pagando la Lega, e se dobbiamo parlare di costi in più, magari date come sta pagando la Lega, scusi? Sì, i mobili sta pagando la Lega. Detto questo, ma scusi, ma le pare normale pure volete, anche questo le pare normale? Volete, aspetti un attimo, se volete parlare di sprechi, date un'occhiata alla sanità del Lazio o della Campania. No, ma sono d'accordo, però non faccio benaltrismo, lo sappiamo benissimo qual è la situazione del Lazio, lo sappiamo benissimo. Avete da lavorare per 10 anni. No, ma non, io lo so benissimo qual è la situazione della sanità nel Lazio e in altre regioni, non è questo il punto, stiamo parlando di un'altra cosa adesso, non si preoccupi che c'è gente che dalla mattina alla sera si occupa della sanità nel Lazio e dei conti sanitari in regioni che non rispettano i parametri. Il punto è un altro, lei mi sta dicendo una cosa importante invece, interessante, cioè che è la Lega a pagare questa roba qui. Sì, per adesso sì, qual è il problema? Ma come qual è il problema? Sono ministeri, uffici di ministeri pubblici, non è che un partito... quattro scrivanie, quattro mobili, cosa pensate che sia? Facciamo una roba a Brianzola qui, non cose che costino chissà che... È una cosa semplice, ma con un computer voi mi insegnate che si può fare di tutto il giorno d'oggi, si arriva in tutto il mondo, non c'è bisogno di 100 dipendenti di cui... 82 inutili come in tanti enti italiani. Cioè fate una cosa alla buona, dice lei? No, la buona, la cosa intelligente, bastano. Ma lei ha detto una cosa alla Brianzola, così... Alla Brianzola, cioè intelligente, nel senso che se bastano 10 persone a lavorare è giusto che siano in 10 e non in 30, di cui 20 non fanno niente. Perché questo lei dice questo è l'andazzo invece da altre parti, no? No, ci sono lei tanti... me l'ha detto invece che in altri ci posti. Ci sono tanti enti, guardi, questo è un ente che ha abolito, è un paese che ha abolito 10 anni fa quello per le vedove dei garibaldini, per cui non so se mi spiego, insomma. Capisce. Però mi scusi, tutta questa battaglia per 100 metri, per 100 metri, quanti sono? 150 all'interno della Villa Reale? Non sono 150, 200, il problema è di tipo politico, e sono sicuro che giornalisti attenti come voi non possiate farvi sfuggire questa. C'è un segnale, volete dare un segnale? Questo è un segnalone, un bel semaforo, insomma, più che un segnale. Un segnale di che cosa? Un primo passo verso cosa? Non so verso cosa, verso quelle che sono le autonomie regionali, il decentramento dei poteri, verso quello per cui è nata la Lega, insomma. David? Ci sei? No, non c'è, è caduta la linea. Vabbè, adesso la recuperiamo. Però scusi, questa cosa è interessante, cioè fa tutto la Lega, ma insomma sono uffici pubblici, cioè non è che può fare tutto un partito. No, lì c'è stato un accordo interministeriale, così mi è stato detto, tra il Ministero dei Beni Culturali e gli uffici che dovranno essere rappresentati qui a Monza. Un accordo per cui le spese di questi mobili eccetera li paga la Lega. No, ma questa domanda non un accordo per i locali, però queste domande non dovete farle a me, dovete farle. Ho capito, lei ha detto paga la Lega. Ho capito, paga la Lega, però qui si tratta di uffici pubblici. Per i mobili paga la Lega. Ho capito, anche questo è strano, cioè per carità, io sono contento che non sborso un euro per queste cose qua che ritengo sbagliate, però insomma, è anche bizzarro. Se è contento abbiamo già fatto il passo avanti. No, va bene, però è strano, cioè io mi prendo un ufficio, me lo trasferisco e lo pago. Accontentatevi, cioè vi abbiamo tolto il motivo per fare polemiche inutili, accontentatevi, perché se fate la polemica sulla polemica mancata, allora non andiamo a casa più. No, però mi scusi, Mariani, c'è un'altra questione. Galan, che è, come sai, il ministro dei beni culturali, lo apprezza come ministro? Le piace Galan come politico? Beh, insomma... Se non trovo, non proprio, No, mi piace, basta che si occupi anche lui come ministro della Villa Reale, come ha fatto Bondi, allora mi piace anche Galan, insomma. Galan dice Bondi... che la villa era stata restaurata con altre finalità. Ma Galan ha perfettamente ragione, infatti questi locali... Voi ci mettete 100 metri quadrati o 150? No, guardi, la Villa Reale, forse voi non siete informati, ha 747 stanze. Ora la parte museale, che è quella destinata a questo nuovo appalto, non c'entra nulla con questi locali. Tenga presente che crescono ancora più o meno... un 500 stanze ancora da ristrutturare. Però comunque è sempre dentro la Villa Reale, in ogni caso è sempre dentro la Villa Reale. Cioè, a meno male, guardi che la Villa Reale dovrà essere oggetto di parecchie cose, perché poi quando tu sistemi tra virgolette un edificio, chiamiamolo edificio, dopo devi anche manutenerlo. Se voi fate un giro a Schönbrunn, vedete che Schönbrunn ospita parecchie attività, anche di tipo amministrativo e governativo austriaco. Cioè non è uno scandalo il fatto che la Villa Reale ospita queste attività. Ma non può essere tutto museo, perché uno sta dentro tre giorni e muore prima, insomma, capisci? Ma non può stare dentro? Non può essere tutto museo, una struttura di 740 rotti stanze, non è possibile. Il museo sono le parti nobili, quelle ovviamente gli appartamenti del re, la biblioteca, eccetera, eccetera, che sono di grande interesse per i cittadini, per tutti. Allora, c'è una questione. Lei ha detto prima, insomma, un segnale anche perché in 60 anni gli altri ministeri non è che siano serviti a molto, questo lei mi ha detto all'inizio. No, non è che non sia serviti a molto. In 60 anni non è stato fatto nulla per la Villa Reale, questo è il problema, tranne qualcosa da parte del Ministero dei Beni Culturali. Con Bondi le cose si sono mosse, devo dire sinceramente, e io spero tanto che Galan proseguo su questa strada. Senta, è d'accordo con Borghezio quando dice che è una sconfitta anche per Alemanno, che si è un po' presa. Io sono uno costruttivo di natura, non vado a polemizzare per niente. Alemanno, tra l'altro, ha avuto un ruolo molto serio e molto equilibrato nella storia del Gran Premio Roma Monza, per cui Alemanno ha tutta. Ma ci sarà una targa? Le targhe dove saranno? Anche fuori dalla Villa Reale o solo dentro? No, credo dentro. Dentro. Le targhe le hanno preparate, me le hanno fatte vedere a Puntida, ma credo chi che saranno dentro. Chi le ha pagate? Chi le ha pagate queste targhe? La Lega. Grazie. State bene, buona trasmissione. Giornale Radio 800 24 00 24. La Zanzara prosegue tra un quarto d'ora circa. Siamo qui 19:18 800 24 00 24. Questa è la Zanzara e abbiamo appreso, forse con una certa soddisfazione, caro Parenzo, che questa storia del trasferimento, questa buffonata pazzesca del trasferimento dei ministeri, che in realtà non sono ministeri ma sono semplici uffici, a nord, a Monza, due ministeri targhe, e non il terzo, trasferimento di targhe, diciamo così, di targhe, sarà pagato interamente dalla Lega Nord, secondo quanto ci ha detto il sindaco della città di Monza. E mi riferiscono anche che questo sindaco, peccato non averglielo potuto chiedere in diretta, ha consegnato le chiavi della Villa Reale allo stesso Bossi a Pontida. Vabbè, intanto sentiamo i titoli del TG3 di questa sera. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Belinguer. Sì del Senato alla fiducia sulla manovra, Tremonti senza pareggio il debito divora il futuro, napolitano presto altre prove di coesione. Ticket sanitari da lunedì, interventi sulle pensioni, tagli alle agevolazioni fiscali, pesanti gli effetti della manovra sulle famiglie. L'opposizione, noi responsabili, ma da lunedì si cambia, la manovra è iniqua e questo governo non è all'altezza di gestire la crisi. Torna a salire il divario tra i tassi dei titoli pubblici italiani e tedeschi, borsa in calo, la BCE avverte c'è il rischio che la crisi si estenda a tutta l'area dell'euro. Nuovo rinvio del voto in giunta sull'arresto di Papa, la Lega non voteremo contro, a Milano inchiesta sulle soffiate a Mediolanum. Bufere anche sul ministro Romano, indagato per mafia, Di Pietro, se non lascia abbandoniamo l'aula, la replica, mi convochi l'antimafia. Meglio amici che compagni, parola di Vendola, del web si scatena, lui replica, mi hanno frainteso, non ho mai rinunciato a quella parola. Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Ma questi baci a chi li devo dare? L'avvocato della signora Minetti è diventato il mio nuovo mito assoluto, caro Parenzo. Colui che dice che la Minetti, naturalmente la sua cliente, non era una tenutaria, riceveva vantaggi come tante altre, chi una Land Rover, chi un posto al Consiglio regionale nel listino bloccato, che le ragazze agivano sostanzialmente da sole eccetera, eccetera. Le cose che abbiamo letto e ascoltato ieri. La cosa che colpisce di più è il bacio saffico, perché a un certo punto, ieri in tribunale ha tirato fuori un dipinto, l'immagine di un dipinto, Saffo ed Erinna Mitilene, del pittore inglese Simeon Solomon. Per dire, beh, intanto sentiamo Corso. Il discorso è molto semplice. Eccola qui. C'è una foto tratta dal fascicolo del pubblico ministero. Se non si bagna anche il bacio saffico. E io ho messo sotto un quadro del 1600. Se voi vedete differenza, ditemelo. Se qualcuno di voi si emoziona, ha aumento di pressione sanguigna o altre reazioni, diciamo così, particolari, mi spiace per lui. Senta, però vada da un medico. Baciami piccina con la bomba. Beh, devo dire che è numero uno, eh. È un numero uno perché, nel fascicolo c'è la foto di un bacio tra due ragazze, no? Sai la storia del bacio saffico, certo, che ci sarebbe stato tutto. Conosci tutti i dettagli, bacio saffico che ci sarebbe stato, ma le interessate smentiscono naturalmente, tra la signora Minetti e Rubi, rubacuore, di fronte a Berlusconi. Ora l'avvocato giustamente dice, beh, insomma, dalle foto che abbiamo viene fuori che è un bacio saffico come si faceva anche tanti decenni fa. Ma e poi c'entra? Qual è il reato, dice? Qual è il reato? Tutto questo è eccitante, sarebbe un reato? Possiamo discutere se ci sono peccati, ma sicuramente non ci sono reati. Sentiamo bacio saffico nei telegiornali, sempre il signor Corso. Il bacio saffico è qualcosa che noi vediamo tranquillamente in televisione, che viene mostrato ai telegiornali in orari normali, nei vari gay pride eccetera, e che ormai non emozionano, men che meno sessualmente, nessuno. Ma questi baci a chi li devo dare? E poi la nuova definizione di Arcore, data questa volta appunto da un avvocato, l'avvocato della Minetti. La faccio risentire perché è significativa: non un bordello, bensì un nightclub. C'è una testimone che è giovane, quindi conosce la realtà attuale dei luoghi di divertimento più di quanto non la conosca io o il pubblico ministero Forno, che ha più o meno la mia età, e che ha definito la cena di Arcore un ambiente esattamente come un nightclub. Se noi diciamo che i nightclub sono bordelli, allora sappiamo che tutti i nightclub sono bordelli. Se invece diciamo che nightclub è nightclub, quello era, per una testimone, diciamo così, esperta di locali. Allora, Di Pietro che vuole abbandonare l'aula, beh, caro Parenzo, vuole abbandonare l'aula. È curiosa quella dell'avvocato, quando vuoi la confutiamo per tabulas, punto per punto, amico e mio. Che confutiamo? A parte che secondo me l'avvocato della Minetti ha perfettamente ragione, ma insomma, no, lasciamo perdere, è una no, strategia perché processuale, non è una strategia difensiva. Riconosco grande intelligenza, dopodiché c'è il problema che l'accusa è quella di induzione alla prostituzione. Il bacio c'è stato, non c'è stato, questo è il tema, vero? No? Il bacio c'è infatti stato. Lui dice che non è un amministratore di nulla, non è un'amministratrice di nulla, non ha indotto nessuno alla prostituzione, le ragazze facevano quello che volevano senza una regia, ma questo fa parte della difesa. Ma come spiega la dazione di denaro? La dazione di denaro. Vabbè, ma adesso non stiamo là nel processo, non è che dobbiamo analizzare passo per passo il processo, momento. Ti voglio fare sentire Di Pietro, il quale vuole abbandonare l'aula. Vuole abbandonare l'aula se non verrà messa in discussione la mozione di sfiducia nei confronti di Romano. Sentiamo. L'Italia dei Valori ha presentato una mozione di sfiducia e da settimana prossima non entreremo più nell'aula parlamentare fino a quando non si metta all'ordine del giorno, primo punto, la discussione del nostro ordine del giorno, perché vogliamo sapere se questo Parlamento ha il coraggio di assumersi la responsabilità di chiedere al governo di mettere fuori dall'esecutivo una persona imputata di mafia o di tenersela. Ma questa tentazione, c'è sempre la solita cosa, cioè, per carità, uno può presentare tutte le mozioni di sfiducia che vuole, è legittimo, per carità, cioè, adesso minacciare l'Aventino perché non viene messo al primo punto, all'ordine del giorno, la vicenda Romano mi sembra francamente una cosa grave, è un'accusa gravissima. Sì, quella a parte che tu sai benissimo che c'è stata un'imputazione coatta nei confronti di Romano in una vicenda processuale complicata, lunga. Però c'era già stata la segnalazione del capo dello Stato. Preoccupazione del capo dello Stato. Per carità, guarda, non è che sono legato sentimentalmente al signor Romano, dico semplicemente che stiamo sempre parlando della questione dell'accusa. E poi qual è il punto? Cioè, il punto è l'imputazione molto grave di mafia, cosa bisogna fare? Allora chiedo agli ascoltatori della Zanzara, uno che ha un'imputazione del genere, che però deve essere anche analizzata perché è una cosa complicata, c'è stata un'imputazione coatta, è un ministro, cosa dovrebbe fare? Abbandonare oppure battersi la propria indipendenza anche dallo scranno di ministro? Lo chiedo a chi ci sta ascoltando. Devo andare dal signor Cruciani. Sì, sei qua sotto, lo so. Intanto è arrivato anche il signor Farina, nostro ospite. Quando vuoi accomodarti, signor Parenzo, quando vuoi entrare in studio, fai con comodo, puoi anche bere un caffè, puoi prendere un aperitivo, Ho tempo per un caffè intanto, va giù? Sì, poi hai tempo per quello che ti pare, non ti preoccupare. E vorrei sentire il signor Antonio da Catanzaro. Antonio, hai tempo ancora 4, 5, 6 minuti con il signor Farina che sta per entrare, Intanto Antonio da Catanzaro, buonasera. Buonasera, faccio l'avvocato, sì. Saluto a te e a Parenzo. Non volevo pigliare spunto dall'episodio che è successo ieri dell'automobilista a cui hanno ingiunto l'altra la polizia municipale di Milano, perché Il nostro caro amico da Milano, Luigi, multato ieri. Realtà, Antonio, però alzi la voce perché sennò non si sente nulla. Non c'è poco da discutere, perché il fatto che si siano fermato oppure che camminasse in una maniera estremamente lenta non elide la responsabilità sotto il profilo dell'illecito amministrativo. Vabbè, adesso Antonio, per carità, noi stiamo cercando persone che possono aiutare il signor Luigi. Lei me lo sta condannando un'altra volta. Perché sostanzialmente la sua condotta si è sostanziata in una mera occasionale evenienza lungo il percorso che si era Antonio, però no, non scendiamo in questi dettagli. Noi lo vogliamo salvare, il signor Luigi. Il signor Antonio, che è un avvocato, ci sta dicendo che non c'è nessuna speranza per il nostro amico di ieri, Luigi da Milano. E ha ragione lui. Come ha ragione lui? Un abuso. No, se un signore viene fermato, un radioascoltatore da Zanzara, non è che questo gli possiamo fare una legge ad Zanzaram, no? Non sarebbe male, però. Non sarebbe male, certo. Però uno telefona da Zanzara, viene fermato, dice: mi stavo accennando un movimento. Sì, sì, e invece sì. È evidente che era già in macchina, no? In corsa. Ho capito, ma era a pochi passi. Ma che uno dovrebbe legge, capire? Si sta ma c'è delle regole. Vabbè. La legge è legge. Va bene. In galera. Lorenzo da Milano, buonasera, signor Lorenzo. Buonasera. Mi dica. Mi riaggancerei a quello che sta dicendo adesso Parenzo. Sì. La legge è legge. Ieri lo stesso Parenzo ha accennato a una cosa che ho sentito mentre guidavo, ho rischiato io di fare un incidente. Sono finalmente diventato notaio. Sì. Un padre notaio, no? Io so dove vuole arrivare. Col padre notaio. E questo rende la mia vicenda ancora più particolare, nel senso che io... Medioevo, siamo nel Medioevo, infatti, certo. Com'è? No, medievale, prego. Ma continui medievale. Uno spaccato del Medioevo. Esisteva già nel Medioevo, in alcune nelle zone più progredite. A Venezia c'era. Lei sta rivalutando il Medioevo perché si trasmettevano le cose per via dinastica. Non si trasmetteva, pensi lei. C'era un concorso per... No, ma certo che c'è un concorso, Lorenzo, ma infatti noi non vogliamo dire niente. C'è un numero chiuso. Diciamo anche la verità, Lorenzo. Ma perché c'è un numero chiuso? Allora, scusi, l'incidente, torniamo alle quali... Non serve a niente l'ordine dei notai, a nulla. Aprire l'ordine, non i notai, l'ordine dei notai non serve a nulla. Ma il notaio è un pubblico ufficiale, che ci sia un ordine, lei calcoli che il Consiglio Nazionale del Notariato credo sia degli anni 50. Sto già male, ma i notai esistevano già prima e sono un numero chiuso perché esercitano delle attività delegate dallo Stato. Lo Stato li vuole controllare e quindi devono essere pochi. Via. Un tratto di penna. Comunque, io ho impiegato 12 anni a diventare notaio. Non subentrerò a mio padre, perché io sono notaio in un distretto, mio padre in un altro. Guarda caso, non è figlio di notaio, guarda caso. Ma no, ma il caso lo si spiega con estrema facilità. Il caso è che l'80%... Devo ringraziare mio padre che mi ha consentito di farlo. L'80% dei figli di notai fanno i notai. No, è solo allora, la categoria dei notai, e questo è un dato. Allora, numeri. Lei ha esordito pochi minuti fa dicendo la legge è legge. Allora, la legge dice che per diventare notaio bisogna essere laureati in legge. È una legge sbagliata. Abbiamo la borsa. È una legge del 1913. Borsa, resti lì. Ed è sbagliata. Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Eccoci qua, 800 24 00 24, con tanti notai, caro Parenzo, che ti stanno assalendo per quello che hai detto. Chi sei? Io sono figlio di avvocati e sono contro l'ordine degli avvocati, contro l'ordine dei giornalisti. Sono giornalista professionista da 10 anni. Allora, chiedere a Renato Farina, che saluto, buonasera. Buonasera Renato Farina, deputato del PDL, e poi parleremo di tante altre cose. Chiedere se lui invece è contrario all'ordine dei giornalisti è un po' come chiedere, dopo le note vicende che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. Ricordiamo, lei è stato sbattuto fuori dall'ordine dei giornalisti, no? Gentilmente è stato radiato, però la Cassazione... Un attimo. Alto. Fermi allora, tutti. Cominciamo dalla prima domanda, giusto? Sì, allora, prima domanda. Io sono... Scusate, recuperatemi però l'ascoltatore che adesso il notaio. È ricaduta la linea. Sì, recuperatemi. Il neonotaio. Allora, io sono contro in generale tutti gli ordini. Ma perché... invece di essere l'ordine dovrebbe riflettere un'armonia, la bellezza, no? Invece gli ordini sono il caos pietrificato, no? Cioè sono la pietrificazione di privilegi, cioè è la consacrazione dell'idea di casta, cioè si chiama ordine, infatti. Ordine. Allora, poi a me piace l'ordine mobile. L'ordine dei giornalisti, diciamo che è ancora più incredibile, perché mentre gli altri ordini hanno dei corrispettivi in qualche parte del mondo, l'ordine dei giornalisti ha un corrispettivo solo in Romania, mi risulta. Perché il precedente dell'Unione degli Scrittori dell'Unione Sovietica non è più attuale. Non so se a Cuba, cioè sopravvive in Romania. Allora, sì. No, ma è nato, cioè su imitazione c'è stato anche uno scambio di delegazioni. Sai quando ci facevano i gemellaggi con i villaggi della Bulgaria che arrivavano i balletti. Ma quello all'epoca degli anni 70, negli anni 70. Delle giunte rosse. Ma... c'è stata questa cosa qui. E perché è paradossale che si affidi la gestione di un articolo della Costituzione che riguarda una libertà fondamentale a una corporazione. Non esiste nessuna parte del mondo, e ci sono molti costituzionalisti, fino a quando poi non scrivono sui giornali e cambiano idea, che anche Zagrebeschi, che ritengono anticostituzionale l'istituzione dell'ordine. Dunque, forse per lei lo eliminerebbe domani. Perché in Parlamento perché non si è fa inutile, mai? Perché non si è fa inutile mai? E anche dannoso. Non è solo un inutile come tanti, è pure dannoso. Cioè, non voleva mai tutelare... Lei lo pensava prima di entrare in grande conflitto con l'ordine dei giornalisti? Io negli anni 70 e 80, quando c'ero entrato, naturalmente, negli anni 80, ero favorevole perché... Cioè, gli sembra di essere entrato in un club, di godersi finalmente qualcosa di buono. E poi avevo questa teoria che, essendo sconfinato, io lo vedevo e lo pensavo, il potere degli editori, che a loro volta non sono editori ma riflettono il potere della finanza, interporre qualcosa di mezzo per proteggere il singolo giornalista aveva una sua utilità. Normalmente questo dovrebbe farlo il sindacato, no? Ma il sindacato in quel tempo si era già venduto, no? Nel senso che aveva venduto le prerogative di far comandare i capi del sindacato dei giornalisti nelle redazioni rispetto allo stipendio e alla vera libertà dei giornalisti, no? Cioè comandava l'ordine. Era un po' una tutela, no? Cioè era un fatto, le assunzioni non le gestiscono gli editori, cioè lavoriamo noi, cioè a me insomma interessava. Poi però quando sindacati all'interno dei giornali sono due cose diverse, ho detto l'ordine, però l'ammissione al praticantato e tutte queste cose era gestita dall'ordine, le assunzioni poi nei grandi giornali invece sono gestiti dal CDR in accordo con l'editore. Però insomma, questo è un altro discorso. Lei tu sei stato scottato dal fatto che a un certo punto dopo la vicenda... No, a me è successo in un dopo intro... 30 anni di servizio, quanti? No, 20 anni. 28 anni di professionismo. Dopo 28 anni di professionismo, Farina, via, ciao. No, allora, radiato. La cosa è andata in questi termini, lo cerco di essere breve. Io adesso non... se volete sintetizzate voi la vicenda. L'ultima cosa ho vinto io. La Cassazione mi ha detto sbagliato. È stato illegittimo quello che mi ha fatto l'ordine dei giornalisti. Perché tu però ti eri già dimesso, per questo l'ha detto. Allora, era successo che io ero stato sospeso per un anno. Sì. Secondo me anche quello non è giusto, ma questo è un altro discorso. Dopodiché, dopo essere stato sospeso per un anno, è iniziato un coro da parte di tutti che questa sanzione era troppo poco e io assolutamente meritavo la radiazione. Un coro universale, fatto anche da quelli che poi mi avrebbero giudicato. Allora, dinanzi a un clima di questo genere, no? Mi sarei trovato davanti a un tribunale del popolo di 130-140 persone che aveva già deciso. E ti sei dimesso dall'ordine? Io, diciamo, o mi no? sono dimesso, ho detto me ne vado. E loro ti hanno radiato lo stesso? E loro invece mi hanno inseguito anche da morto. Però cioè, come se fosse un fallo di gioco. Cioè, la partita è finita, io mi ritiro, loro mi seguono negli spogliatoi. A me però l'hai combinata grossa, diciamo, un po' l'hai combinata grossa. L'ho combinata grossa, sì, sì. Un po' l'hai combinata. Poi dopo tu hai detto l'ho fatto per grossa. Salvare la patria, però no, io non ho mai usato questa espressione. Cioè, anche questo io credo, l'ho fatto per il mio paese, cioè, l'ho fatto per il mio paese. Sono abbastanza colto. Ho fatto la spia per il mio paese. Ascoltami, questo non hai detto queste cose, dai. Trovami il virgolettato, tu no, sei così preciso. Credo, io ho detto un'altra cosa, un po' con autoironia. Io ho detto io ho detto, mi sono trovato in una situazione che se non avessi fatto quello che ho fatto, mi sentirei meno uomo, no? Perché mi sono trovato, tutto è iniziato in un coinvolgimento che era dato dal fatto che io ero in grado di arrivare in Iraq dove stavano i sequestratori, o comunque ad allacciare un rapporto, ce l'avevo solo io. Allora, siccome la persona che era mio interlocutore lì non accettava di parlare con i servizi, mi spiego perché, allora io ho fatto da ponte, no? E credo di essere, che il mio contributo, come è riconosciuto in una dichiarazione non da imputato, per cui ma in Parlamento, quindi obbligato a dire la verità e mettendoci il suo onore di soldato, io ho aiutato a salvare delle persone. Però dopo sei andato dai magistrati. Allora, alto un attimo, eccetera, dopodiché cosa succede? Ti sei fatto un po' bene alla mano a un certo punto. Ma certo, sono d'accordo su questo. Cioè, qual è stato l'errore? Sono stato gravemente imprudente. L'errore da giornalista, l'errore del giornalista è andare nella stanza di Spataro. Ma no, ma quella è veramente stata una cosa gonfiata d'arte. Ma la gente non... Io voglio sapere, gli ascoltatori secondo te sanno tutto di questo? No, forse perché no. Perché se no io provo un po' a dire proprio banalmente. Allora, io... 2004 ci sono i rapimenti dei contractor italiani, no? Allora, io sono in grado di capire dove possono... dove è il contatto. Faccio questo lavoro. Capisco. Sono il primo che sa che uno è stato ucciso e so il nome di chi è stato ucciso. Dopodiché, cosa che invece il Sismi negava dicendo che era un trucco, eccetera, mentre io ero sicuro della mia fonte. E allora la cosa va avanti, no? E dal sequestro delle Simone al sequestro Sgrena, credo di aver dato una mano decisiva per la liberazione. Poi? Dopodiché succede che c'è una campagna forsennata contro il nostro Sismi, contro i nostri servizi, contro la nostra, contro la nostra intelligence e contro Pollari. Casa Womar, eccetera. No, prima. Cioè, sarebbe stato i nostri servizi segreti a trasmettere l'informativa agli americani che ha giustificato la guerra in Iraq. Cioè che questa cosa qua, cosa che invece era falsa, anche il Senato americano diceva falsa. Dopodiché questa stessa campagna, fatta dagli stessi organi di stampa, ha proceduto nella delegittimazione del Sismi riguardo alle famose rendite, i rapimenti degli imam in Italia, su cui io ho sempre pensato che sia sbagliato. Però siccome sapevo che Pollari pensava che ero sbagliati, ho detto, ero convinto che fosse un lavoro fatto male, quello della magistratura milanese. Io, siccome avevo appreso che un giornalista di Repubblica era stato 2 ore a parlare con uno di questi magistrati, io ho detto, chi sono io per non parlare anch'io? Io ho chiesto un colloquio. Però passavi la notizia lì a... Cioè, se le notizie fossero state esplosive le avrei pubblicate sul giornale, no? Ma siccome in quell'incontro, tra l'altro io ho proposto a Felt di pubblicarlo, io non ho registrato niente, non ho preso appunti per dire, e ho solo detto che le immagini procedevano e l'ho riferito al Sismi, perché io pensavo che c'era una parte dello Stato che stava divorando un'altra parte dello Stato. Allora, l'errore che hai commesso secondo te qual è? Imprudenza. Cioè, dovevo rendermi conto delle conseguenze dell'atto e poi il fatto di essere... a un certo punto, per un certo clima che si crea di amicizia, collaborazione, quando sei a rischio della vita, no? Sei portato a fare le cose che ti chiedono. Ma come adesso... Quando tu non le ritenga immorali, mi spiego. Ma adesso io come ti chiami? Rendo conto... Farina o Betulla? Anche questo è una cosa interessante. Ma perché Betulla? Poi il nome, lo ricordiamo, allora, gli ascoltatori, lo spiego molto il nome... Lo spiego, l'ho spiegato in un mio libro. In codice, no? No. Betulla. Allora, tra l'altro, anche qui, non ero io Betulla. E no? Chi era Betulla? Allora, Allora, io dovevo portare. Ma com'è che funziona adesso? Non per mandare tutto in vacca, perché dopo non vorrei. Sì, è un tema molto serio. Riguarda la tua vita. Ma si può anche anzi, scherzare. La sua vita. No, ma siccome capisco che riguarda la sua vita, anzi, io c'ho... ci siamo sempre dati del tu, sì, quindi bisogna darsi una cosa. Ormai ci scherza, riguarda la tua vita. Ma com'è che funziona? Cioè, uno chiama e dice. Cioè, mi chiama. Dice, ma figurati, io non l'ho mai saputo. Ma è andata così, semplicemente. Cioè, allora, io dovevo portare dei soldi a quello che mi aveva dato le notizie, no? E già qua questo uno dice no, dice come cioè ascoltami, era quello che ci aveva salvato la gente, io no, e io dovevo e dargli qualcosa. Fai giornalista, però facevi, non è che facevi ascoltami, cioè io sono prima di tutto una persona, se ci sono in ballo dei valori grandi, ma quindi no? I soldi quindi erano dei servizi, ma certo, cioè i servizi, certo. Dato questi io, soldi firma, io ho pensato chi doveva darlo, siccome questo era un libanese e dovevo firmare io la ricevuta, ho pensato firmo Cedro, dopo ho detto caspita, dopo capiscono che è un libanese e magari... Vabbè, Cedro, certo, no? Cedro, perché... Dice Betulla. Allora faccio il contrario. Il Betulla, ho detto, ma era lui, mi spiego. Sì, dopodiché, siccome io avevo firmato Betulla quella ricevuta... Poi ho detto, vabbè, se mi faccio firmare una ricevuta vuol dire che è una roba pulita, non mi spiego? Beh, una cosa, cioè, io non ho mai sentito, però, come però la vita di Betulla, però scusa Farina, com'è che io solo su questo poi torniamo tutte le cose che sì, Cruciani si è preparato 2 milioni di domande, no, però no, è al tuo libro Marsilio 12 sì, euro, io ne parlerei, però com'è che funziona, cioè Pollari l'ex capo del Sismi, allora, lo senti ancora? Lo senti ancora? È un po' che non lo sento, è professore adesso e Pompa lo senti ancora? Pio Pompa, no, cosa dici? Che parole? Pompa mi ha chiamato l'altro giorno, che voleva? Voleva questo libro perché Giuliano Ferrara gli ha chiesto di fare la recensione di questo libro per il per il Foglio. Cosa, ma perché non facciamo una bella puntata Pompa, Pollari, lei lasciamo perdere. No, una puntata è bellissima, lasciamo perdere alla zanzara, facciamo no, voglio capire come funziona la parata dei mostri, l'ex capo manca solo Moggi poi qui cosa l'ex capo del Sismi che tra l'altro è mio amicissimo, allora, ho solo questa domanda, un giudizio molto Travaglia, uno che ce l'ha con lei, scrive delle cose tremende, ma sì, poi secondo me sta praticando una specie di stalking, cioè io sto raccogliendo tutte le citazioni che ha fatto di me. Lo denuncerai per stalking, Travaglio? Ma non credo. Come cioè, non credo? Non credo che... No. Ogni volta racconta di nuovo la vicenda, la spia, entra nella casa di Spataro, i giudici che lo aspettano e sanno già tutto, rotonda... Pompa intercettato. Sì, ma va bene. Non, invece, la cosa che mi ha preoccupato è questo. Io ero... credo amico di Travaglio, no? Cioè, quando è successo tutto questo non mi ha fatto una telefonata per dire ma che cosa cavolo è successo, mi racconti la tua versione dei fatti, no, ha cominciato subito ad andare da lui, da David Parenzo, la tua trasmissione, a sparare contro di me. Quando mai è venuto? Dopo 3 giorni. Ma quello che devo... No, ancora lavoravo in Lombardia era lì, è venuto apposta. Ma no, apposta. Il tradimento che ti ha dato più fastidio qual è stato? Da parte di una persona che stava accanto a te di questa vicenda, che so, Lerner, per esempio, Lerner. No, ma guarda, ascoltami, è ingiusto, lui non è qui, non è giusto dir così. Io l'ho capito perché, voglio dire, lui si è sentito tradito, no? Sì. Soprattutto perché sono uscite delle cose che io avrei detto a Pompa su di lui, mentre era io non, come poi si è visto dei famosi dossier, io non ci sono mai come uno che passa notizie su Lerner, su questo, su quest'altro, io ho fatto quello che era inerente al, cioè non mi hanno mai chiesto perché mi conoscono, no? Ecco. No, ma io un'ultima domanda. Non mi hanno mai chiesto dimmi qualcosa di questo, di quest'altro. Semplicemente Lerner mi aveva detto in una telefonata che De Benedetti vuole comprare la 7. E tu l'hai detto, siccome parlavamo di Telecom eccetera, gli ho detto, ma era evidente, lo sapevano tutti che De Benedetti voleva comprare la 7, ne discutevano tutti, no? Per cui il Repubblica attaccava Pollari, Telecom. Ho sentito che se ne parlava, no? Cioè, e io ho detto, ma guarda, cioè, lo sappiamo tutti che anche Lerner mi ha confermato che c'è un interesse di De Benedetti a attaccare Telecom per renderla più debole e convincerla a vendergli la 7, no? Cosa allora, che mi sembra stia succedendo anche in questi giorni, no? Lorenzo da Milano, scusi, allora, me l'ha detto l'abbiamo interrotta, allora qual è la storia del notaio? Allora, stavamo dicendo della possibilità di accedere alla professione e sentire che è qualcosa di ereditario è bestiale, perché se voi avete modo di conoscere le centinaia di persone che dedicano la vita, gli anni della gioventù dopo la laurea e prima di tentare questo concorso, e che si dedicano con un'abnegazione assoluta rinunciando a sposarsi, ad avere figli, eccetera. Che noia. Che noia, ma quante persone dedicano la loro vita alla professione? Mica solo i notai, dice, che spirito di abnegazione, noi che abbiamo studiato per fare i notai. E quelli che fanno... sia giusto, sia sbagliato, è una legge che lo stabilisce. Lei ritiene che... Va cambiata quella legge. Tanto il legislatore la cambierà questa legge, non importa. Va cambiata subito. Non ditemi che si eredita, perché questo non è vero. Certo che si eredita, è un numero chiuso. Ma per forza, appena ne muore uno o ne salta uno, tac, entra l'altro. Entra un altro che ha passato il concorso. Sì, certo. E lei è laureato in legge? Ma ci mancherebbe altro, ma che discorso è? No, non è manco laureato. No, ho fatto giurisprudenza, ma non mi sono mai laureato in legge. Studi, avrebbe la possibilità, dopo un anno e mezzo di pratica, di partecipare al concorso. Se lei è uno di quei 10 su 100 che ce la fanno, può diventare notaio. Che lei abbia o non abbia padre, madre o parente notaio. Diciamo che aiuta. Potete dire che non è così, ma è così. No, ma andiamo a vedere la lista. La vostra è una trasmissione di luoghi comuni e di falsità. Procediamo. Ma io sono figlio di avvocato. La verità, questa è la verità. No, ma io non sto dicendo che io sono figlio di notaio. Certo che sono figlio di notaio. Una bassa percentuale di notai e figli di notai. E sapete perché? Perché i padri vorrebbero dare lo studio ai figli, ma non possono, perché i figli devono prima aver passato il concorso notarile. Ma certo, caso non glielo possono dare, perché il papà dovrebbe andare in pensione per poter lasciare lo studio al figlio. Funziona così, sembra strano, sarà impopolare, sarà l'abbattimento di un luogo comune, ma è la legge, la stessa legge che invocavate prima. Scusate, una legge sbagliata, ma ho passato 10 anni della mia vita su questo, a sentire vaccate di persone che non conoscono la realtà e che a seguito di un luogo comune continuano a sostenere questo. Quindi in maniera poco elegante, ma la realtà è questa. Va bene, grazie Lorenzo. Prego. Carlo da Vicenza, buonasera, Carlo da Vicenza, buonasera. Sono un farmacista. Sì. Allora, ho anche qualche carica a livello ordinistico. Sì. Io volevo farvi una preghiera, per stima, vi limitaste a parlare dell'ordine dei giornalisti dei quali siete espertissimi, forse potreste evitare di dire sciocchezze, perché purtroppo è così. Cioè, io quando per esempio l'ordine dei farmacisti blocca l'accesso alle professioni? Non esiste l'ordine dei farmacisti. Nessuno ha detto che l'ordine dei farmacisti blocca l'accesso alle professioni. Qui abbiamo parlato limitatamente dei farmacisti, guardi, abbiamo parlato di altre cose in questi giorni, farmacisti un po' meno. Ieri sera sono stati citati. Sì, comunque, ma saranno stati citati tra gli ordini, ma insomma non è che abbiamo parlato meno male. Prendo atto, comunque era un intervento a bocce ferme, visto che sui farmacisti ci sono altri problemi che riguardano la distribuzione sul territorio, eccetera, insomma altre cose che non c'entrano niente con l'ordine, con l'accesso alla professione. C'è anche quello. Prendo atto. Ritiro il mio intervento. No, per carità. Va bene, 800 24 00 24. Farina, moltissime persone in realtà si sono fatti questa idea. Adesso parliamo del libro subito. Quello che Betulla, quello che scriveva articoli falsi perché pagato dai servizi segreti, quello che ha stuprato questa nobile e magnifica professione, mi scrive un mio amico, una persona che conosco, un blogger. Sì. Ora, mondata questa cosa dei suoi eccessi, quello che è passato allora, è questo. Cioè che lei prendeva dei soldi per scrivere articoli falsi per conto dei servizi. Questo è il problema. C'è una parte di verità in questo. Neanche un po'. I soldi lei non ne ha mai incassati? Allora. Sì. Allora, io posso dire adesso posso dirlo. E c'è una testimonianza precisa di Pollari fatta al giurì d'onore che io ho chiesto in Parlamento. Pollari, l'ex capo del SISMI. Ex capo del SISMI, che adesso è magistrato contabile dello Stato, e diceva che i soldi non erano destinati a me. Io in quel momento, siccome temevo per la sorte della persona a cui facevo arrivare i soldi, ho detto che erano rimborsi spese, non dicendo che erano i miei. No? Anche se posso essere stato confuso, poi uno può benissimo non credermi, mi spiego? Può benissimo non credermi, tant'è che io sono ritenuto erano passaggio di soldi che servivano ad esempio a procurare il filmato, ecco questo lo posso dire adesso, sì. Il filmato della Sgrena, no? Che è arrivato in Italia, che dimostrava che era viva, è stato pagato con una parte di quei soldi. Però io non potevo dirlo, anzi non potrei dirlo neanche adesso perché è segreto di Stato, va bene? Cioè, scusi, ha rivelato un segreto di Stato adesso, Farina. Sì, non arresteranno, tanto più o meno. No, spieghiamo bene, perché è interessante. Cioè, il filmato? Allora, il filmato, cioè il primo filmato sì. che è stato trasmesso, che è arrivato dall'Iraq, dove si documentava che la signora Sgrena era viva, sì. perché non c'era certezza, l'ho fatto arrivare io tramite quella persona. Tramite così quella come persona ho fatto quale? La persona, il mio referente. Betulla. Ecco, sì. Ecco, la il vero Betulla, diciamo. Ed è stato pagato. Certo, ma non so se poi lui se l'è tenuti, ma comunque non è che te le cose te le danno gratis, no? Così come il filmato. Quanto è stato pagato, ce lo ricordo? No, non lo dico. 10.000 euro. 10.000 euro. 10.000 euro. Non so saperlo. Beh, ha detto 10.000 euro pagato allora. Quel filmato dai servizi segreti italiani. Sì. Per ottenere quel filmato. Per ottenere quel filmato. Ma questo non si era mai saputo, eh? Anche quel filmato che noi abbiamo visto. Allora, io anche la notizia è pazzesca, spiego questo, ma no, non è una notizia pazzesca. Beh. Su questo, nel libro mio su Cosica c'è ben altro. Tanto che cioè, naturalmente io registro ancora una pazzesca censura nei miei confronti. Che, su che cosa? Cioè, vi sembra possibile che da quando io sono stato radiato dall'ordine, io sono sempre la stessa persona, non sono più stato invitato in trasmissioni televisive. Qualche volta ha provato Davide. Io ti ho chiamato un sacco di volte. Ma io resistevo. Ti abbia contestato. Parlare di politica, di cose di cui parlavi abitualmente. Di qualsiasi prima. Cosa. Non sono più stato chiamato. Però abbiamo la pubblicità. Neanche torniamo, i cosiddetti di centrodestra. Poi parliamo, Cossiga mi ha detto, il testamento politico di un protagonista della storia italiana. Poi non ho scritto cose false, lo dico subito. Io non ho scritto nulla di falso, sono pronto in qualsiasi sede a dimostrarlo. Falso diciamo sì. della nessuno vicenda, nessuno mai vicenda il famoso dossier su Prodi inventato da tutte balle, non è vero che esiste. Ma tra poco. Eccoci, 20 in punto, 800 24 00 24. Allora, Renato Farina ha scritto così che mi ha detto il testamento politico di un protagonista della storia italiana del Novecento. Ore e ore di registrazione, non solo, memoria storica, perché avevo un rapporto speciale con l'ex Presidente della Repubblica. Qual è la rivelazione più così, clamorosa? Clamorosa, dicene una. Una è che il memoriale Moro non è quello che abbiamo letto. Addirittura. No. Certo, ci sono parti che non sono state diffuse. Me ne sono accorto io perché lui a un certo punto si è messo a parlare del fatto che il memoriale Moro parlava della sua visita in Irlanda. In cui lui e dove sarebbero queste visitare. Parti non diffuse? E lui non lo sa. E ha detto, ma sei sicuro che c'è? E lui mi fa, ma certo l'ho letto. E allora sono andato a guardare dappertutto se c'era questi riferimenti che lui fa al memoriale Moro, no? Cioè con il suo ruolo nell'antiterrorismo, no? Non c'erano, vuol dire che c'è un memoriale Moro più vasto non è mai stato reso pubblico. Poi? E ci sono finite nelle mani dello Stato, però mistero. Poi c'è il fatto, ecco, e qui siamo al punto che decide anche della mia grande vicinanza e amicizia con Cossiga, che lui mi ha veramente voluto concedere, è il fatto che lui sapeva benissimo come io mi sono comportato, che persona era. Diceva che io ero buono ma coglione. E, buono ma coglione. Sì. Cioè ingenuo. Sì, era un complimento in realtà. Qualcuno mi chiede, ma alla fine questi soldi, a proposito di coglione, sì. questi soldi quanti sono stati? Guarda, questi dei rimborsi spesi in tutto. Questi qua in 50 tutto sono euro. Stati 30.000. 30.000 euro. 30.000. Cioè uno non si fa ricco con 30.000. Allora, ma figuriamoci io. Ma questi qua dove sono io finiti? Io ho pagato poi, all'ordine dei giornalisti per una causa. Io ne ho avute diverse, le ho perse e adesso ho vinto. Più di 30.000 per ogni causa, no? Io sono, non so come dire, no? Io avevo un reddito superiore ai 250.000 euro come giornalista. Adesso invece? Da quando è iniziata questa vicenda il tuo reddito è diminuito? È crollato. È completamente crollato. Beh, ora fai il deputato. Faccio il deputato, grazie al cielo. Sì, ma l'hai fatto anche per questo, no? Il deputato? Per la difficoltà che avevi, sì. Ma guarda, ma certo, io sapevo fare due cose. Scrivere sì. e, non so bene o male, e... scrivere di politica, ho sempre scritto di politica. In quel momento, siccome in questa cosa qua del sismi eccetera mi ha coinvolto il governo, perché ricordatevi il sismi è una parte, cioè, della presidenza del Consiglio. Considera un risarcimento la candidatura? No, non considero un risarcimento, lo considero come posso dire, una possibilità che sto esprimendo molto bene. E comunque di certo io con la consapevolezza della presidenza del Consiglio. Cioè la presidenza del Consiglio allora sapeva che tu... Prodi. Certo. Prodi è arrivato dopo. No, Berlusconi. Ah, Berlusconi. Berlusconi. La presidenza del Consiglio. Berlusconi. Io non ci ho mai parlato su questo. Sì, però la presidenza del Consiglio sapeva che tu lavoravi, tra virgolette. Questa è una testimonianza che ha fatto poi al giurì, per cui non sto rivelando Letta niente. Letta sapeva che tu lavoravi per i servizi. Ecco, la parola lavorare per servizio è proprio sbagliata. Vabbè, lavorare, che io, lavorare da, quello che è, cioè, diciamo, no, cioè che io mi sono prestato per ragioni umanitarie, no? Vabbè, completamente a titolo quindi, gratuito. Letta sapeva. E questa è la cosa che, tu fa, stai... girare le scatole specialmente a mia moglie. Chiaro. È il fatto che io passo per uno che se ne ha approfittato. Mia moglie sapeva, ma non sapeva niente. Sapeva solo che io, perché una volta gli ho detto, guarda, sto per partire per l'Iraq, che cioè l'unica possibilità per incontrare i contractor, quelli rapiti, è che sono io che posso incontrarli, no? Ma io lo sapeva di questa cosa, per esempio, all'epoca? Sì, penso io non sì. lo so. Questo non lo so. Lo sapeva Letta, ci ha detto. Ma dunque, lo questa sapeva candidatura Letta? È una sorta di risarcimento a questa, da parte di Berlusconi, a quello ascoltami, che ti è successo, o no? Io posso raccontare com'è andata, poi giudicate voi se è risarcimento. Cioè, è stato Feltri che ha chiesto a Berlusconi con insistenza di farmi deputato, di mettermi in vista come deputato. Berlusconi ha resistito perché di me non si fida completamente, perché, questo mi ha detto Feltri, per una ragione molto semplice, che io quando sono stato con lui, poi io raccontavo sempre tutto su Libero, cioè, e allora lui ci cascava sempre, non si fidava per questo. Ho raccontato diverse cose dall'attentato presunto a San Pietro con la notte. Ma ti ha garantito Natale. Per esempio che sarà ricandidato? No. Io no. Pensi di ricandidarti? O pensi che 5 anni o 4 anni possono bastare? Devo ti dire che resteresti io sto facendo due cose in Parlamento. Una, sono molto le carceri, no? Cioè che visito costantemente. La seconda, ho presentato una proposta di legge insieme a Treu al Senato e a Alessia Mosca, la del PD, sul lavoro nelle carceri. E poi mi occupo tantissimo di libertà religiosa. Cioè posso dire che la mozione sulla libertà religiosa che è passata, in cui si parla di queste cose... è gran parte mio parto, ecco. Quando ti danno dello spione ti offendi? Guarda, l'ha fatto un giornalista, nostro amico Giglioli, molto, tu hai fatto causa, sono molto io sono, cioè diciamo è facile ferirmi, per cui se uno vuole ferirmi io il mio fianco, cioè quando uno dice farina è uno spione, per ti irriti, non ti è dà vero, fastidio, mi dà fastidio no. perché non corrisponde alla mia identità. Cioè, se mi possono dire, però l'hai fatto se per un periodo, critica, no, per un periodo l'hai non fatto, ho fatto no, lo spione. Non hai fatto lo spione. Io non lo definisco così. Cioè, io mi immagino un'altra cosa per spia, cioè, devo dirti. Beh, se volete considerarmi, no, cioè, ma anche io non poi non metto etichette a nessuno, che le metto a te. Un sacco di gente anche importante è venuta da me per chiedermi di raccomandarlo per fare lo 007. Cioè? Non ho capito, è importante tipo chi? Chi? Politici? Devo dire. No, giornalisti, certo. chi? Scusa, no, la categoria ci devi dire. Posso dire anche una cosa, io so tanto abbiamo tolto i nomi di molti stato giornalisti, di nomi di diversi giornalisti che erano implicati nel sisma, va bene? Questo lo so, e loro sì che prendevano ma adesso soldi. O 30 anni fa o 40 anni adesso? Fa? Adesso? Anche adesso. E che scrivono ancora? Ma certo. Ci sono giornalisti scrivono italiani pagati e prendevano soldi, giornalisti di giornali diciamo di area di centro-sinistra o di centro-destra, o anche giornali diciamo giornaloni? Anche giornaloni. No, anche non buttiamo il sospetto così. Beh, non posso, scusami. È una cosa, cioè, io non è una posso... cosa gravissima. Cioè, ci sono giornalisti in attività, tu dici, in attività. Non so se li prendono ancora, però so per certo che li hanno presi. Sai per certo perché te l'hanno detto gente del sisma, evidentemente. Perché cioè... lo so. È una polpetta avvelenata questa. Cioè, ma non è una polpetta avvelenata, scusa. Sto dicendo una grandissima banalità. Beh, come... banalità, no, insomma, noi siamo due ingenuoti. Ascoltami, che... ascoltami sto come se dicesse che ci sono dei giornalisti che prendono la cocaina, no? Allora, beh, era un po' diverso. È un po' diverso. Diciamo, la cocaina è distribuita in tutte le sociali, cioè, no? Fa più male, fa più cioè, male. Avere ma dei giornalisti, però scusami, Farina, sono, puntualizziamo questa questione. Cioè, dire che ci sono alcuni giornalisti in servizio oggi, magari, che so, al Corriere della Sera? Ah, dove sono? Corriere, dove della, Corriere della Sera? Corriere della Sera della Repubblica anche? Corriere? Non si può dire. Pronto? Ascoltami, io mi rendo conto che no, ma io, ho detto una cosa che voglio dire... Che ti è venuta fuori così. Mi è venuta fuori. Io so, lo so... ma so anche che rivelando questo farei del male a delle persone che magari lo fanno in buona fede. Cioè prendono i soldi in buona fede perché ci credono o perché... Ma, senti, ascoltami, è solo in Italia che i lavori non si devono pagare, no? Perché non capisco, se tu fai una consulenza... Beh, una consulenza, no? Però... Ma tu dici però che il tuo è stato rimborso spese. Come? Non una retribuzione di un lavoro, il tuo. Tu dici che è stato semplicemente un rimborso spese. Infatti sono l'unico pirla della circostanza, ma me ne vanto anche. Però, pirla non prende i soldi, invece ci sono tanti no, altri. No, sono ben contento di essere un pirla, però non vorrei elogiarmi troppo, ecco. Pirla, pirla però, un diciamo una cosa chiara ai giornalisti giovani che sai ci ascoltano, non si fa così il lavoro sapete di che ho scoperto diciamo in una farina, mostra però. Che nell'Ottocento c'era un giornale satirico a Roma, fatto durante la Repubblica Romana anticlericale, sì, che si chiamava Il Don Pirlone. E tu ti senti il Don Pirlone? Sì, un po' don... quando l'ho letto ho detto Madonna, questo mi ha beccato. Un po' don dalla voce lo sei sempre stato. Ma sì, ma l'hanno sempre detto anche Michele Serra. Però ecco, questo devo dirlo. Poi quindi voglio sono dire... giornalisti che prendono i soldi. È più facile difendersi dal Parlamento essendo in Parlamento, questa è una vecchia questione. È più facile difendersi essendo parlamentare, sì, diciamo. Guarda, più semplice. L'unica vantaggio cosa che ti tranquillizza è l'idea che non possono intercettarti ufficialmente. Poi ti intercettano lo stesso per interposta però persona. Però non possono usarle. Ed è difficile anche arrestarti. Ed è difficile essere arrestato. Dunque, l'unica cosa, quando vedo dei carabinieri non ho paura che mi mettano le manette, perché non si sa mai. Non è una cosa da poco. No, comunque, no. Ma tu ti sei candidato anche per quello, per paura che ti potesse succedere qualcosa? Che ti potesse succedere. Ascoltami, io ho sempre avuto due sogni sin da bambino. Uno era fare le Olimpiadi di salto triplo, perché io ero un giovane saltatore di triplo e sono stato anche campione provinciale e regionale allievi di salto triplo. La seconda era di entrare in Parlamento. È stato sempre un tuo sogno. È sempre stato un mio sogno, ma proprio nel senso che me lo sognavo di notte. Senza questa vicenda. Ah, te lo sognavi di notte di fare il parlamentare? È una delle cose insieme agli esami di maturità. Onorevole Farina. Senza Betulla non l'avresti fatto, però. Molto probabilmente non l'avresti fatto. Come se ne sappiamo? Magari diciamo che. Però dobbiamo chiudere con una cosa. Innanzitutto ricordare il libro, Renato Farina, Cossiga mi ha detto il testamento politico di un protagonista della solidarietà. Io comunque sono pronto a qualsiasi confronto in qualunque sede. No, però la roba del giornale va chiarita, perché abbiamo detto una roba pesantissima prima. Ma non è pesantissima. Tanti giornali, quanti saranno? Ma in quali testate? Al Corriere, alla Repubblica. Ci arriva una querela pazzesca. Sul secolo XIX, non nessuno in questione. Sul secolo XIX, una volta è uscito un articolo in cui diceva addirittura che i giornalisti implicati nei servizi segreti, devo avere ancora il ritaglio da qualche parte, erano 200 circa. No? Vabbè, a me mi sembra un numero esagerato. Tu stai dicendo che ci sono giornalisti in attività oggi che hanno rapporti continui con Sismi, e questo magari ce l'hanno per motivi professionali, che prendono, cioè, che lavorano per i servizi, che hanno preso e prendono soldi dal Sismi. Ma dove scrivono? Su che giornali? Su che giornali scrivono? Repubblica? Repubblica? Corriere, l'Unità, l'Espresso, Panorama, Libero, il Giornale. No comment. Anzi, siccome, cioè, io non veramente tutto nella mia vita, ma meno che passare per mestatore. Ma no? Non cioè, c'è. Allora, io. L'hai lanciata allora, tu. Però no, l'ho lanciata. Voglio concludere in questo modo. Voglio concludere allora, in questo modo. In questo libro ci sono cose molto più interessanti. Ma o è vero o non è vero? Cioè, no, però. A me sarebbe più interessante dire, no? Cioè, che ci sono un sacco di giornalisti, ci sono le prove, che hanno lavorato per il KGB. No, vabbè, questo è vero, ma sono ancora in attività. Ma roba vecchia. Uno chi è? Quello lo sappiamo, è uno di cui si parla sempre. No? Chi, per esempio, chi è che ha lavorato nel KGB che è ancora in attività e che non si sa? Chi? Non li faccio vedere. Ma come no? Ho capito. Bam, bam, bam, bam, bam, e KGB, cioè, chi è oggi in attività e ha lavorato per il KGB non si sa? Che di uno si è sempre sospettato, magari ci sono anche, non mi ricordo. No, adesso non lavorano più perché KGB non c'è più. No, vabbè, certo, però che hanno lavorato e che sono ancora in attività. Nella prima Repubblica, diciamo, nella guerra fredda. L'uomo della scorta sorride. A me interesserebbe una cosa. Ma della scorta perché ci sono minacce ancora nei confronti di Farina? Sì, sì, anche molto. Ma chi la vuole uccidere? Anche adesso. Chi la vuole uccidere, Farina? Chi la vuole uccidere? Chi la vuole uccidere, uccidere. Uccidere, insomma. Allora, diciamo, l'ultima minaccia che ho ricevuto. L'ultima minaccia che ho ricevuto è sul mio SMS, delle cose per cui, minacce molto pesanti. Avete presente, cioè, quello per cui è stato fatto un gran chiasso per Bocchino, no? Sì. Io ne ho ricevute di molto peggio e secondo me arrivano da parte dei servizi segreti. Come da parte? No, i servizi segreti vogliono farla fuori? Da una parte dei servizi segreti. Una parte dei servizi la vuole uccidere. Ti minacciano. Ho ricevuto delle minacce pesantissime. Tipo di morte? Di morte. Ma come fa a sapere che sono i servizi? Come fa a sapere che sono i servizi? Lo dirò al magistrato sabato. Un interrogatorio. Devo parlare come testimone a Monza sabato. E dirò le cose che so. Il problema è questo, è molto delicata la cosa, perché queste cose. È così delicata, è una bomba dietro l'altra, cioè, questa sera. Scusa Renato, però tu stai dicendo ma nessuno che nessuno mi parla mai. Ma rimanga qui con noi per sempre. Cioè, una parte dei servizi mi minaccia e mi manda messaggi di morte tramite il cellulare. Ma anche questi qua sono pazzi, quelli di sinistra, diciamo, quelli che fanno riferimento a. Lascia no, non c'entra niente. Sinistra. No, no, però, ma di sinistra. Ma scusa, è curioso che ti mandino un messaggino quelli dei servizi. C'è una roba da ispettore Clouseau, questa qui. Scusa. Allora, vi dico un po'. Se tu già sono i servizi, è una roba tipo allora, Pantera perché Rosa. Esistono delle cose che allora se ti arrivano come a me come a Bocchino sono arrivate negli stessi giorni da una cabina di Salerno e da una cabina di Reggio Calabria formalmente, no? Sì, da sì. Numeri questo. Allora neanche con i mezzi più sofisticati no? Sono riusciti a risalire a chi li aveva mandati. quelli di Bocchino, dice, quelli di Bocchino. Ma i miei figurati, io ho fatto denuncia, ma figurati se si occupano di miei, no? Sai, non mica sono Bocchino. Ma che, perché ma, una parte dei infatti non hanno richiesto i tabulati alla Camera, la Procura di Monza, non ho mai capito perché non ha richiesto. Scusami Renato, perché una parte dei servizi dovrebbe minacciarti di morte? Perché ce l'hanno con te, hanno paura che potresti fare qualche rivelazione, no, perché cosa? Come fa a sapere poi che poi sono dobbiamo i servizi? Chiudere per forza. Come fa a sapere che sono i servizi? Questo è intuito. Ma questo, scusami, quando ti chiedono cioè sicuramente non sono le Brigate Rosse, che invece sono secondo me le autrici del primo, delle prime cose, no? Cioè, anzi, estremisti di sinistra, diciamo, sì, ma legati alla Brigate Rosse, gruppo guerrigliero, sì. E invece adesso no, io penso che siano questi. Ma poi, questo perché? Perché hanno paura di che tu possa raccontare qualcosa di quello che è ma successo? Ma perché, cioè, da sempre c'è un intreccio tra tutti i servizi, no? Non solo quello italiano, no? Io sono di fatto considerato, sono il più esposto, no? Cioè sono anche in sede internazionale, io sono molto esposto. In sede internazionale? Sì. Quando cioè, vado in Consiglio d'Europa io so per certo che sono pedinato. Pedinato, sì. Ma da chi? Da una parte dei servizi segreti di quale paese? Dei servizi di varie parti del mondo. Cioè, ma questo... ma sei al centro di un complotto internazionale? Vabbè, una ma cosa no, complicata. Ma Renato, infatti, scusate, secondo me, io penso che sono di essere al centro del complotto. Penso che a causa della mia esposizione, no? Cioè, ma è normale, se tu vai in un paese, no? I servizi segreti di un paese, sì. No? Se tu sei una personalità politica, si occupano di te, sì, no? Sì, minimamente. Sì, certo. Non è una cosa stravagante, cioè sì. Cercano di capire. Cioè, per cui sono servizi, allora, una parte dei servizi italiani ti manda questi messaggi di morte perché ti considera pericoloso. Italiani, ti considera pericoloso. Non vediamo so. Perché hai detto tu prima che sì, probabilmente sono erano un buon italiano, suppongo che siano italiani. Vabbè, mistero. Allora, ma cioè ma voi io voi non fate finta di niente, cioè voi avete letto in questi anni Espresso, Repubblica, che fanno che ogni tanto c'è scritto cosa fa quello dei servizi contro quell'altro, no? Allora? Cioè la lotta dentro i servizi segreti si fa anche in questo modo, ma è dentro i documenti del se leggete l'Espresso degli anni scorsi lo vedete, allora? No? Cioè, allora evidentemente io sono mia assolutamente inconsapevole, perché io veramente sono finito dentro questo giro di minacce, no? Allora, grazie a Renato Farina, abbiamo grazie. Pubblicità, siamo in ritardo, 800 24 00 24, ci sta aspettando un altro ospite, ascoltatori, a tra poco. Parenzo, siamo sconvolti. Siamo sconvolti da queste rivelazioni. Notizie bomba. Notizie bomba. Innanzitutto, dopo le riassumiamo. È difficile anche riassumere tutto, perché sai, notizie 800 24 00 24. No, a parte dossier moro, i giornalisti. Sì, vabbè, Meglio non tornare. Allora, abbiamo un altro ospite, però dobbiamo dare spazio anche a qualche ascoltatore. Lorenzo da Roma. Lorenzo, io intanto buonasera. Guardo l'ospite. Lo sì, guardo, pronto, lo buonasera, mi sente? Sì, pronto? dica, signor Lorenzo. Volevo intervenire in merito al sondaggio che ha lanciato sul ministro Romani. Romano, io non ho lanciato nessun sondaggio. Avevo sentito dire poco fa che volevate sapere cosa ne pensavano gli ascoltatori, se si fosse dovuto dimettere o meno. Sì, no, ho detto che... L'ho interpretato così, mi perdoni. Che secondo me si dovrebbe dimettere, il motivo potrebbe essere interpretato appunto analizzando la necessità che hanno le nostre istituzioni di recuperare un po' di credibilità. Mi ricollego anche all'intervista che è stata fatta ieri tra Barisoni e Sallusti, o l'altro ieri, appunto dove chiedevano come mai Sallusti non ha calcato troppo la mano nel momento in cui era stato sfiorato. Ma su che cosa Sallusti, scusi? Sempre parliamo di un ministro, in questo caso di un'indagine che ha sfiorato il nostro ministro. Che c'entra Sallusti? Non ho capito che c'entra Sallusti. È stato intervistato? Sì, ieri o l'altro sì. Ieri da Barisoni. Credo che sia comunque vabbè, è stato intervistato, allora? E appunto anche lui diceva non ho calcato troppo la mano su questa inchiesta che ha sfiorato il nostro ministro, perché in questo momento c'è necessità che le nostre istituzioni acquistino un pochino più di credibilità. Ma comunque non ha detto questo. Comunque in ogni caso Secondo me dovrebbe dimettersi, però c'è anche da considerare un altro fatto, che gli dovrebbero dovrebbe avere anche degli strumenti per potersi difendere, perché io sempre così facendo un attimo un ragionamento. Ha tutti gli strumenti per difendersi, ministro. C'è il processo. Sì, ben venga, però io quello che volevo dire, sempre uscendo forse un po' dal seminario, ma volevo fare un'analisi su alcuni giudici. Seminario, faccio... forse dal seminato, dal seminario. Si può anche uscire dal seminario. Si può anche uscire dal seminario. Volevo sempre uscire dal seminario. Se uno però ci deve anche entrare nel seminario. Questo certo, a condizio sine qua non. Per uscire dal seminario. Bisogna esserci dentro. Però, siamo troppo cattivi. No, però, non si può scappare. Ci sono dentro al seminario. Vabbè. Io però non ho capito nulla del suo intervento. Glielo dico molto sinceramente. Sì. Cioè, qualcuno ha capito? Chiami chi ha capito? Esegesi dell'ascoltatore. C'è un'intervista famosa di di Barisone a Sallusti, perché Barisone non ha mai intervistato Sallusti. Anche Barisone una volta, poi intervista Sallusti. Sì, primo. No? Povero secondo, Barisone. Grande Barisone. Non so, è un'interpretazione strana di quello che ha detto Sallusti. Sì, però mi sembra difficile. Cioè, abbiamo un ospite, un sacco di notizie da dare. Stiamo qui a fare l'esegesi di quello che dice questo simpatico signore. Una follia assoluta. Va bene. Allora, Corrado da Brescia. Corrado, buonasera. Chi è Corrado? Buonasera. Fammi fare qualche ascoltatore. È una trasmissione che ha gli ascoltatori. Va bene che questa sera abbiamo avuto le bombe di farina. Che non sono come le bombe di Mosca, Mosca, per carità. Però l'ultima non me la ricordo, però c'è stata la cosa sui giornalisti, la cosa del video della sgrena pagato dai servizi e poi I messaggini che gli arrivano dai servizi. Sono minacciato di morte dai servizi segreti. Una cosa pazzesca. Cioè, una cosa. Corrado, dica. Allora, io sono un avvocato e devo dire che dopo la sollevazione dei miei 40 colleghi in Parlamento, lo dica che è una vergogna, mi sono vergognato del tutto. Buonasera, non è avvocato. Non è avvocato. Onorevole Carlucci. Buonasera. Gabriele Carlucci. Non è avvocato, senti che meno voce, male. Senti che voce che ha. Ma tu ti confondi con la sorella, secondo no. me. No, ma se sono stupido, secondo me. Allora, Corrado, allora? Pronto? Sì, dica. Dica, avvocato. Semplicemente dicevo che la sollevazione dei colleghi in Parlamento è qualcosa di poco commendevole davanti a un paese che stava andando in default. Dopodiché è altrettanto vero che gli ordini professionali, che secondo me servono poco o nulla, ma non sono certo quelli che impediscono la professione. A Brescia, dove io opero, ci sono 300 avvocati nuovi ogni anno, siamo in 2300, esattamente come è verissimo quello che diceva il notaio prima, c'è gente che sta 10 anni sul concorso notarile, parimenti la professione di notaio in tutti i paesi occidentali avanzati non esiste, salvo per un aspetto che va detto per amor di verità, i notai sono spesso esattori per conto dello Stato di un mucchio di denari che altrimenti i cittadini non darebbero. E concludo dicendo che forse sarebbe il caso che ci si modernizzasse come nei paesi anglosassoni, in cui ci sono le associazioni di professionisti che a seconda della loro credibilità e onestà hanno o meno, perché non è l'ordine professionale che ti garantisce la probità e la posso dire una cosa però posso dire una cosa all'avvocato dire, questo è un vero liberale avvocato no le volevo dire questo secondo me però l'esame di Stato serve a tutelare l'interesse pubblico nel senso che queste professioni devono tutelare l'interesse pubblico perché poi i medici, gli avvocati, i commercialisti servono al cittadino. Ma c'è la legge che lo già tutela, sono i processi, i tribunali. Cioè, se uno è un cattivo giornalista, non è soltanto l'ordine che ti sanziona, ma se scrivi una minchiata ti portano in tribunale. Comunque, secondo me, non è l'esame di Stato o l'ordine degli avvocati che blocca l'accesso alla professione. A Roma esistono più avvocati che persone normali, quindi vuol dire che tutti riescono a fare l'avvocato. Ci sono più avvocati nella città di Roma che in tutta la Francia. Valutate questo dato, quindi non è vero che c'è un blocco all'accesso alla professione. All'inizio c'è una difficoltà da parte dei giovani perché vengono sottopagati, c'è questo esame ed è troppo lungo l'iter per diventare avvocato. Su questo non c'è dubbio. Ma non è vero, perché oggi l'avvocato quando tu esci dall'università non sei in grado di fare l'avvocato. Questo è gravissimo. Ma è così. È gravissimo. Ma questo è lo scollamento fra l'università e il mercato del lavoro. Allora chi esce? Si modifichi quello però. Perfetto. E la Gelmini ci sta provando in tutti i modi. Allora quando tu esci dall'università proprio e ti sei laureato, nel senso che ha tentato di fare questa riforma. Zanzara questa che è mica latte e miele. Riforma per mettere in contatto il mercato del lavoro con l'università. Sì. Allora chi esce oggi, e l'avvocato lo può confermare, dall'università non è in grado di fare l'avvocato. Deve per forza andare in uno studio legale e fare la pratica. Sì, però e imparare. Questa pratica la impari e chiaramente devi fare un po' di gavetta, quindi non puoi guadagnare come se fossi subito il principe del foro. Nessuno pretende che appena diventi... Però tutto il resto è tutta una sovrastruttura, una burocrazia, l'esame tutto che poi inutile. È una farsa. L'esame, a che serve l'esame? Uno se fa l'avvocato lo sa fare in aula, lo sa fare... Cioè l'esame non serve a nulla, diciamo la verità. Hai non studiato serve a procedura penale, procedura civile, diritto signor Corrado, grazie. Allora, risalutiamo ancora la signora Carlucci. Io sono Zanzara Addict. cioè drogata della zanzara. Ma ha sentito le bombe del signor Farina? Ho sentito prima? Qualche cosa che stava arrivando. Qui stanno uscendo, sta uscendo di tutto, bombe di Renato Farina. Una parte dei servizi segreti mi minaccia, mi vogliono morte, all'estero sono anche pedinato. Ma questo è clamoroso, adesso noi scherziamo su tutto. No, però no, questo è questo oggettivamente clamoroso. Se allora, è vero, nella querelle, ora cambiamo completamente argomento perché la zanzara è così, si occupa di cose diciamo alte, tra virgolette, anche cose leggermente, ma non con lei, di cose meno alte. In questa disfida tra sua sorella e la signora D'Urso sul format, no? Lei lo sa, no? Su Ballando vagamente con le stelle e poi invece... E ballando con le stelle o sotto le stelle? Con le stelle. Con le stelle. Le stelle sono quelle che si prestano a imparare a ballare. No, l'ho visto, e baila. L'ho visto, lei da che parte sta? Dalla parte di Milly, naturalmente. Come anche dalla perché... parte di Contro Mediaset? Certo. Mi è contro Mediaset in questo caso. Assolutamente sì. Anche cioè, perché è una copia. Stanno copiando vergognosamente. Stanno copiando vergognosamente anche perché Milly, devo dire, che ha preso lo spunto da trasmissioni europee analoghe, però gli ha dato, diciamo, un'impronta sua molto personale. Anche loro dicono di prendere spunto da un format, allora, di aver comprato un format sudamericano. Mediaset copia, questa si compra, il format si compra, no? Nel senso che il format tu lo prendi dall'Olanda, dalla Germania, da Spagna, come quello appunto Ballando con le Stelle. Dopodiché devo dire che Milly lo ha modificato molto e loro copiano le modifiche di Milly, mi dispiace copiano le modifiche. Assolutamente sì. Gravissimo. È una cosa gravissima. È una cosa gravissima. No, sto scherzando, comunque no. È una cosa grave, in questi casi però... Uno dovrebbe. Ma no, ma in questi casi io credo che è il mercato che giudica, cioè gli spettatori. Esatto. Secondo me, tutte le volte che Mediaset ha copiato malamente un prodotto della Rai, gli è andata male. Però quindi sarà il mercato a giudicare. Lei consiglia a sua sorella di astenersi da cause legali oppure fa bene andare dagli avvocati? Avvocati. Guarda, io sto per andare da lei questa sera a cena, quindi glielo chiederò. Ecco. Da lei, Milly. Non la lei. Da lei, Milly. Non il direttore generale. Da mia sorella, Milly. Ah. Ma che c'entra? No, succede da lei. No, c'è questo... il direttore, c'è tutto un casino. No, no, da Milly, da Milly, da Milly. Quindi glielo chiederò. Non lo so, poi io non so bene esattamente. C'è anche un riconoscimento quando uno copia una cosa. Hai fatto una cosa bella, una cosa. Però io trovo che insomma quel programma di Milly viene fatto in maniera veramente molto faticosa, con pochissimi mezzi. Beh, sono pochissimi mezzi. È la Rai. Rai ha pochissimi Rai mezzi. Rai 1. Quindi si basa veramente sulle idee, sulle le intuizioni di Milly, che ogni anno ha cercato di rinnovarlo, di fare delle modifiche. Comunque Mediaset sta copiando vergognosamente. Assolutamente sì. Cosa pazzesca. Questo è virgolettato. Questo è virgolettato, va bene. Ma non sa, scoop. Ma a Berlusconi, gliel'ha detto a Berlusconi. Glielo dica. Non lo sa Berlusconi ancora. Che gli frega di Baila, perché Berlusconi non è Mediaset. Ma ti pare che si occupa di Baila? Scusa però. No, ma secondo si occupa di tutto. Secondo te Berlusconi si occupa del format Baila che andrà su Canale 5? Beh, quando era in azienda si occupava anche dei comodini. Va bene, però lo sai che dobbiamo arrabbiarci dopo con la signora Carlucci, che è a favore del mantenimento delle province, è una cosa pazzesca. No, ma scusa, Cruciani, so tutto, sono preparatissima. E sai perché sono preparatissima? Perché sono sindaco. Senza la provincia, se lo so che... Certo, e allora ti posso dire, di Margherita di Savoia, paese ridente della Pugliese, che ospiterà anche i Duran Duran, però ho la borsa. Eccoci qui, 20:35, questa è la Zanzara, caro Parenzo, 800 24 00 24. Siamo con Gabriella Carlucci, deputato del PDL, nonché sindaco di Margherita di Savoia, città che lei vuole trasformare in una sorta di Miami con un gemellaggio, una cosa pazzesca. Gemellaggio con Miami e Margherita di Savoia, ma Miami lo sanno? Allora, se tu vai sul sito del gemellaggio, troverai l'accordo firmato da me e dal sindaco di Miami. Pure il sindaco, il sindaco di Miami sa dove è Margherita di Savoia. Allora, io sono andata dal sindaco di Miami. What is Margherita Savoia? Così avrà detto. What is Margherita di Savoia? Non è vero, perché io gli ho detto, io sono sindaco di una piccola Miami italiana. E lui? Gli ho fatto vedere le foto. Si è fatto abbindolare. Io dico, con tutto il rispetto per Margherita di Savoia. Però... una Miami italiana. Cara signora Carlucci, non esageriamo. Lei adesso è una grande promotrice su questo. No, scusate, voi siete lei dovrebbe stati... fare il ministro del turismo. Voi siete mai stati? Perché non fa lei il ministro del turismo? No, una domanda. Siete mai stati a Margherita di Savoia? No, no. Infatti... Però sono stati a Miami. Chiedo scusa. Allora, Chiedo scusa. Io ho le foto di Margherita di Savoia. Basta andare sul sito del comune, sì. E se voi guardate il sito del gemellaggio. Però le foto non è che dicono. E allora venite. Possono taroccare. La spiaggia di Margherita di Savoia è lunga 18 km. Sì, ed è larga 100 metri. Ma non basta questo per un attimo solo. Quello che dice basta compagni, adesso siamo amici. Niki Vendola. Care compagne e cari compagni, ci eravamo smarriti, ci siamo ritrovati. E che diciamo organizzavano gli eccidi, organizzavano la soppressione dell'altro compagno anche la soppressione fisica. Bukharin, noi dobbiamo compagno, noi dobbiamo compagni, la mia goccia compagno di sangue. Qui è Telese che si è arrapato per questa storia del compagno Niki, una cosa assolutamente marginale. Bella però la trasmissione della Sette, no? Trasmissione in cui collabora anche Telese, che oggi ha realizzato un servizio per questo, dunque tu non hai il diritto, scusa Parenzo, non hai il diritto di dire bella. Ho capito, però non è che uno può fare una trasmissione se faccio una critica. Cosa cavolo parla il compagno Niki? Ma di che stiamo parlando? Poi anche il caso del poi parlerete anche di altre cose. Ah, perché tu fai anche l'autore della Sette, adesso no, capite? Tu fai egregiamente. Hai ragione. Sono andato al di là del. No, ma perché poi si può dire tutto. Però, voglio dire, torniamo a Miami. Allora, torniamo a Miami. Torniamo a Margherita di Savoia. Se voi non l'avete vista, non potete giudicare, dovete venire, io vi invito. Però il sindaco di Miami cosa ha fatto? Where is Margherita di Savoia? No, io sono andata lì. What is Margherita? Sono andata lì con un bellissimo libro sulla Puglia, un bellissimo video della Puglia, dove partendo dalla Puglia si arrivava poi alla provincia di Barletta Andria-Trani e al comune di Margherita. Quindi alla fine si arrivava. Sì, beh, cosa volevo... di simile a Miami? Allora, innanzitutto queste spiagge meravigliose, lunghissime, mare e larghissime, mare pulitissimo, anzi direi sicuro? Meglio a Trani, su Puglia, meglio di quello di Miami, perché a Miami la parte di Key Biscayne è molto bella, la parte è di meglio Miami il Salento, il mare del Salento oppure quello di Margherita di Savoia? Margherita di Savoia non ha niente, bello uguale. Sì, non niente. No, ma dovete venire, ma lei, non potete giudicare. Lei perché non ha fatto lei il ministro? Ha ragione Parenzo. Ma lei anche simpatica la brambilla, bacia i cani, come, no, cosa ha fatto con i cavalli? Le tigri. Con le tigri. Poi ha scritto una tigre. Ministro del turismo, no, scritta, lei, una cosa pazzesca. Ma lei lo sta facendo benissimo. Allora, la brambilla no. Questo non lo posso sentire. È simpatica, però è simpatica, adesso bisogna vedere pure simpatica. Però che lei mi dica. Lo sapete che ha trovato tantissimi soldi, per esempio, adesso per aiutare le imprese. Ma lei l'avrebbe fatto meglio o no? Ma non lo posso sapere, nel senso che quando cioè, tu... piacerebbe fare il turismo. Ma io non guardo mai troppo in là. Io cerco di fare bene quello che sto facendo. Per l'appunto, io ho preso questo piccolo paese di 12.000 abitanti, lo voglio trasformare nella Cannes, nella Saint-Tropez, nella Miami del Sud. Ma sul serio, ci voglio riuscire. No, ma ci riuscirò. No. Non guardare quello che hai fatto, stai guardando la televisione. 800-24-0024, questa è la Zanzara. E qualche ascoltatore, poi parliamo di una cosa seria. E quando sono i Duran Duran? Allora i Duran Duran che danno la sola, no, come al solito. No, perché anche un altro paese. Allora i Duran andare, Duran so erano previsti il 24 di luglio e c'era si è rotto la corda vocale. Simon Le Bon si è rotto la corda vocale. Questa è dramma Simon no, Le Bon. No, non è una scusa, ha cancellato il tour mondiale. Ho capito. Ha cancellato il tour mondiale. Noi avevamo già non noi, insomma, l'organizzazione aveva già venduto 10.000 biglietti per il concerto e sarebbe stata una cosa bellissima perché si sarebbe svolta nelle saline di Margherita e Savoia che sono molto belle, quindi con un set molto carino, diverso da dove sono abituati a suonare loro. Lui sta molto male e ha cancellato un tour mondiale di un anno. Infatti hanno detto mantenete il biglietto fra un anno. Difficile. Cristina da Milano 800 24 00 24. Signora Carlucci mi difende le province da sindaco. Adesso vediamo. Sindaco ed è sindaco e parlamentare. L'altro giorno, caro Parenzo, vorrei che tu ti arrabbiassi su questo. Sì, io so, hai messo Craxi nel servizio della Sette, ho visto. No, vabbè, però no, adesso sei concentrato a vedere mentre sei in diretta. Perché, è una cosa pazzesca. Il tuo il prodotto televisivo, quando lo fai, quando lo crei, il prodotto televisivo. Sì, ma ho capito che c'entra adesso. Stai facendo la live. Però allora io ti dico una cosa. L'altro giorno non ci sono stati solamente i parlamentari avvocati che se la sono presa con il progetto di legge di modificare l'ordine, ma anche. Non so se ci sia di mezzo anche la signora Carlucci. Ma anche i parlamentari che hanno il doppio incarico, dicendo la manovra non la facciamo se passano le norme sull'incompatibilità. Ricatto bello e buono, una cosa allora, c'era gravità lei? Inaudita. C'era lei? No, però sarei stata d'accordo con chi ha. Ma adesso, a parte Margherita di Savoia 12.000 abitanti, si può fare il sindaco di Margherita di Savoia 12.000 abitanti. Intanto... Ma il sindaco di Brescia, che è una grande città, può fare il parlamentare. Vi posso dire una cosa? Fai una delle cose. Cari amici della Zanzara. Quando una persona è stata eletta prima sindaco e poi diventa anche deputato della Repubblica insomma. O viceversa e non si vuole dimettere da uno dei due incarichi e non è una questione di solo dello stipendio ma è una questione di tempo che ognuno di noi può dedicare al proprio lavoro e alla propria cittadinanza. Ci sono solo due parole da dire, due parole: a casa! Allora posso dare una spiegazione? Dia una spiegazione. Allora innanzitutto non ci sono il cumulo, non c'è il cumulo degli stipendi. Vabbè, questo, nel senso che io faccio il sindaco di Margherita di Savoia, vado a mie spese, non prendo un euro in più, non ho nessun tipo di rimborso, di zero. E quindi diciamo che se uno lo fa di togliere il doppio incarico per motivi di risparmio è sbagliato, perché io prendo un solo stipendio. Vabbè. Perfetto. Dopodiché il fatto di essere in Parlamento, e questo vale per Brescia, per Viterbo, no, per qualche altro, non si può fare, no, il sindaco, ti aiuta, è ma non è, no, vero, ma lei, Margherita, voglia 12.000 abitanti, no, si può fare, ma perché l'aiuta se per tu cosa, hai perché... una giunta e un vice sindaco efficienti che tutto il giorno fanno il loro lavoro, non è che tu devi stare là tutti i giorni a controllare il tombino o il marciapiede. No, ma questa Margherita Savoia è possibile, ma non a Brescia. Brescia è una città, è una delle più grandi città del nord, città industriale, ha bisogno. Perché invece chi sta in Parlamento ha la possibilità di, innanzitutto stai facendo le leggi, quindi sai quali sono le leggi che finanziano le varie attività, non stiamo parlando solo degli enti locali. Se mettono incompatibilità non è uno, no, scandalo. No, è molto importante. Se mettono incompatibilità, non è uno, ma allora tutti i sindaci dovrebbero fare i deputati, ma secolo, no, perché tu devi farsi eleggere il sindaco, quindi non è detto che tutti riescano a farsi eleggere, no, il ma sindaco. No, ma certo, scusa, ma quello d'accordo. No, però non può essere, guarda, così io vantaggioso. Posso tollerare fino ai 15.000 abitanti, perché secondo me oggettivamente se uno nasce in quel posto, delega in una città di 15.000 abitanti il lavoro quotidiano, in teoria si può fare, però oltre 15.000 ma abitanti. Ma il sindaco deve presiedere ai grandi progetti. Io quello che ho fatto, no, ma deve fare l'amministratore di condominio. Ma anche, io sono, ma della linea Albertini. Bisogna fare l'amministratore di condominio. Tu devi fare, se sei in Parlamento non si può fare. Ma oggi, con i tagli che ci sono, vabbè, con le difficoltà, no, perché tu devi essere in grado di progettare, di intercettare le risorse. Ma non è che lo fai, no, in Parlamento. No. Ma sì, perché in Parlamento sai, passano tutte le leggi, hai il contatto diretto con il ministero. No, i doppi incarichi no, signora Carlucci. Convinto, lei, poi lei la farà benissimo, lei fa, figuriamoci. Ha un'altra storia, non è di quei politici che hanno bisogno della politica per campare. Ma io, un'altra, scusa, storia. Io sai perché ho fatto il sindaco? Perché proprio che con questa legge elettorale tu non hai bisogno di avere le preferenze. Facendo il sindaco io ho dimostrato di avere le preferenze, di avere un seguito in una regione che non era la mia, dove però io mi sono impegnata in maniera approfondita e seria, e ho voluto dimostrare a me stessa e agli altri che il mio lavoro di 10 anni in Parlamento su quel territorio aveva dato un risultato. Però, io ho preso le preferenze, capito? Ma sono, certo, stata votata, cioè, non è che ha fatto un colpo di Stato, diventa sindaco per acclamazione, è molto importante, perché in tempi nei quali c'è, capito, lo sdegno perpetuo nei confronti dei politici. Ma nessuno dice che lei non è stata eletta. No, sto dicendo in generale. Allora, chi fa il sindaco intanto ha raccolto il consenso della popolazione e poi riesce a portare in Parlamento. Ha capito che ma allora faccia il sì, bisogna, cioè, dare, no, un segnale. Questi qua che si ribellano mettendo in discussione la manovra perché hanno proposto di rendere incompatibile la carica di sindaco e di non so che altro, di assessore, e quella di deputato, è una difesa, andrebbero, da casta. Andrebbero prese le foto e di, ecco, ma sono, dal punto erano di vista economico qua. C'era un risparmio? No, non c'è, ma nessun, ma non c'entra risparmio. Niente, un segnale, ma è anche un segnale. Il tempo che tu dedichi, Cristina, alle cose. Cristina da Milano, buonasera. Cristina è un'ascoltatrice, sì. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Allora, a proposito della signora Carlucci, volevo chiedere, visto che è lì, no? Volevo chiedere per i costi della politica, no? Per esempio, il viaggio a Miami che lei ha fatto per magari tre No, tutto con i sponsor. Allora, intanto il viaggio a Miami, io sono andata a Miami dagli italiani, mi scusi. Allora, il viaggio a Miami, no, lo voglio dire, è importantissimo. Sì. Allora, intanto i 3 viaggi che ho fatto a Miami fino ad oggi per andare a chiudere i contratti li ho fatti con i miei soldi. Non ho chiesto un euro alle casse del comune. Se lei chiede i soldi per andare a Miami, a fare il contratto con l'accordo del sindaco. Dopodiché tutto il gemellaggio non costa mezzo euro bucato alle casse del comune di Margherita. Controllate, non c'è, tra l'altro le delibere sono siamo pubbliche. Qua. Non c'è un euro pagato dal comune. Benissimo. Abbiamo trovato solo sponsorizzazioni. Cristina, allora un'altra cosa che voleva chiedere, qual è? Soldi, il gemellaggio, cosa porta Margherita di Savoia? Vabbè, che adesso te lo dico. Continuano a muoversi con i nostri soldi. No, te lo posso dire. Si fa una riforma da 47 miliardi sulle tasche degli sempre delle stesse. Allora, io non sono, posso darti la mia risposta. Cristina, lei sta mettendo insieme 2 cose molto diverse. Posso dare la mia risposta a Cristina? Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, il gemellaggio non costa un euro a Margherita di Savoia. Dopodiché il mio intento, e ti spiego in che modo, è di portare dei turisti americani a Margherita di Savoia e non solo. Cioè, uno degli obiettivi del gemellaggio è far conoscere la Puglia, Margherita di Savoia, un territorio molto bello. Noi vendiamo dei pacchetti turistici, per esempio, vendiamo il sindaco, il wedding planner. Il sindaco di Miami è venuto, ma è impazzito, ha detto che è molto bello, perché adesso vado prima io a Miami per 3 mesi poi torna lui. A quarta volta. E lui zero. Traffico, torniamo subito. Allora, 800 24 00 24. Cristina, concluda, Sì, no, volevo chiedere, siccome l'altra sera ho seguito il tuo dibattito sull'auto di Podestà, io non ho più sentito nulla. L'auto di Podestà. Sapere se c'è stata qualche novità, se c'è stata qualche spiegazione in merito, perché a me è sfuggita. Poi allora, nei prossimi giorni, se il suo, sì? Se il governatore, no, governatore no, se il presidente della provincia ci vuole telefonare, vuole intervenire, per carità, sarà nostro ospite. Solo per capire. Ho avuto altre notizie. Per il signor Podestà è stato sottoscritto un contratto per il noleggio a lungo termine per 4 anni per un totale di 119.923,20 euro. Audi A8 super accessoriata. Hanno voluto fare, diciamo, il cottimo fiduciario perché non hanno, non so cosa sia, perché non hanno aderito alla convenzione della Consip, visto che questa convenzione prevedeva come top di gamma una macchina per lui meno prestigiosa. Sembra una BMW serie 3. E invece il presidente voleva una macchina del segmento superiore, caro Parenzo. Sì, a te queste cose ti fanno venire il sangue al cervello. Mi mandano ai matti, ma io dico solo una cosa. No, però una abbiamo sola. Già dato. Abbiamo già... Due cose, anzi. Mi devi fare... Mi crei... Usate il risciò! Usate il risciò! Usate il risciò! Ma anche i mezzi sai pubblici, ma in molti paesi, i politici... Ma lei cosa usa? Io qui la Smart e a Margherita non ho la macchina. A Margherita non ho la macchina? Sono appiedata. E qui la Smart. Vabbè, lei non ha bisogno di scorte, di nulla, non ha incarichi, diciamo, istituzionali. Però è vero che i politici dovrebbero andare un po' più con i mezzi pubblici ogni tanto. Mi piacerebbe... È una questione di praticità, nel senso che... Ma non è che anche le altre persone hanno impegni. Così sì, non è che devo andare a lavorare. Mica mi devo ir qua. Ma la Smart non dà fastidio. No, ma la Smart, ma non capite effettivamente perché il sindaco di New York Bloomberg va al lavoro in metropolitana come tanti cittadini americani di New York fanno, perché funzionano bene le metropolitane. Infatti il politico se andasse un po' di più sui mezzi pubblici, ci vado in si renderebbe conto di come funzionano. Allora, prima le metropolitane a Roma, ad esempio, le perché lei difende le province, signora Carlucci? Allora, una cosa mi fa andare in no, le province, io difendo una cosa le inutile. Province proprio dal momento in cui sono diventata sindaco, perché io sono sindaco di un piccolo paese, ma come me sindaci di comuni piccini e ha capito tantissimi. Che le province servono. No, io ho avuto bisogno della mia forza, provincia, certo che ha avuto bisogno, perché la mia provincia perché per esiste esempio. No, ascoltami, se non esistesse le competenze sarebbero trasferite non magari anche ai comuni di o alle regioni e lei si rivolgerebbe o a se stessa o alla regione Puglia. Ma allora mi dovresti dare anche tantissimi soldi. Me li dai tantissimi soldi? Non credo proprio. Beh, quelli che danno alle province allora, si spostano da altre parti. Il problema parti. Delle province è che ci sono alcune competenze, alcuni uffici che loro hanno, come l'ufficio tecnico, la ragioneria, l'ingegnere, l'architetto. No, sto già male. Ufficio ma non tecnico, è vero. Male, guarda. Il comune così piccolo non è in grado di ma progettare. Ma il comune così piccolo, no, magari c'è tutta un'organizzazione diversa che si può fare, di razionalizzazione. Che devi fare allora comunque un organo intermedio. Modernizzare. No. Ti sto dicendo, per esempio, la proposta fatta da Brunetta che dice che è quella che cito lì. Allora, eliminiamo i politici, nel senso che non facciamo più l'elezione dei consiglieri bravo sto Brunetta però. No, perché lui dice usiamo i sindaci dei comuni della provincia che diventano che ma partecipano dice, ma al consiglio no? provinciale. Ma l'avete fatto? No, lui la proposta è una cosa molto intelligente. Perché proponete tante robe? Per cui elimini la parte, elimini i costi della politica in quel caso e tieni però quelle strutture che ti servono a fare le strade, a fare i progetti che prendono i fondi, per esempio europei, regionali, statali, capito? Che il comune non è in grado di fare, allora mi devo mettere insieme ad altri comuni, allora creiamo un'altra struttura. Ma stai creando un'altra struttura. Ma c'è un sacco di gente che vive di politica anche in provincia. Senti che dice il sottosegretario all'ambiente Catone, responsabile. Senti, faccio leggere la mia iPad. Catone dice gli ordini, come diceva Almirante, è giusto difendere i propri interessi. Ma è vero? No, non è uno scherzo, è vero. No, è uno scherzo. No, non è uno scherzo, è vero. Catone, sottosegretario all'ambiente? Senta, ha sentito Catone. La nuova definizione dell'avvocato della Minetti di Arcore? Catone. Signora Carlucci? Non l'ho sentita. Beh, è un nightclub, non un bordello, ma un nightclub. Si va migliorando, però. È una cosa pazzesca. Cioè, ammette che c'erano delle feste un po'. No, beh, ammette che c'era un nightclub. Ammette, è l'avvocato della Minetti. Ma è una residenza, cioè, voglio dire, però. Ma quello, appunto, è l'avvocato della difesa della Minetti. No, della Minetti, che non è proprio lontana da Berlusconi. Comunque, sicuramente qualcosa. Ma lei ci crede che è stata fidanzata di Berlusconi, la Minetti? Guarda, io in questa storia non voglio giudicare. Una brutta perché, storia, no? Ma no, ma perché vedi, tu leggi delle se cose... l'avvocato dice che la Minetti ha avuto una relazione con Berlusconi, sarà vero. Io voglio credere alla parola della Minetti. Si deve, lei in qualche modo si deve difendere, scusa. Ah, quindi è una tecnica di difesa, lei no, dice. È stata trascinata in tribunale, qualcosa bisogna pur dire in tribunale. Ma hai saputo che la moglie di Berlusconi, Veronica Laro, si è detta disponibile a venire incontro su questa storia del risarcimento della Fininvest, disponibile a aiutare la famiglia sul risarcimento Mondadori, no? Questo è importante perché bene. Lei sente molto bene. Il... Beh, fa bene è responsabile in questo senso è responsabile sì molto. Beh, c'ha anche 3 figli Berlusconi pare che abbia apprezzato il gesto signor Lario. I suoi figli hanno sempre il mito di Berlusconi? Mio figlio. Suo figlio ha sempre il mito di Berlusconi? Sì. Quanti anni ha suo figlio? 14. E cosa dici quando lo vede in televisione? Ma loro partono da questo presupposto. Allora, è questo buffo, qui... dice vai che è buffo. No. Qual è il presupposto? Allora, intanto prendendo la data di nascita, quindi l'anagrafe, cioè come se io avessi un nonno, che quindi è così intraprendente, esuberante. Esatto. Esuberante. Uno. Poi dice tutto quello che ha fatto, l'ha fatto bene, il Milan, sì. La politica. E delle donne che dicono? Lo trovano figo, come si dice da quelle cool, parti. Fichissimo. Cioè, lo trovano figo, lo trovano figo perché si circonda di belle ragazze. Ma no, poi anche perché loro, guarda, siccome i ragazzi di oggi leggono tutto, dicono questa persona comunque ha creato delle cose importantissime nel nostro paese. Vabbè, questo e sì, più, però... E vabbè, è più, guarda che... Però Bunga Bunga, scusa, se è vero, Bunga Bunga, Bunga si diverte. Il mito fa parte anche tutto quello che Berlusconi... Ma lei cosa dice? Ma lei a suo figlio non può fare l'elogio del Bunga Bunga, però. Assolutamente no. Qualora vi fosse stato. Tant'è vero che qualora ci fosse stato Bunga Bunga, io ho detto, non mi sembra molto carino questo metodo. E loro dire, suo figlio invece che dice no, su questo loro ragionano. Suo figlio ragiona, va a mille. Io ho 14 anni, amica mia. Senta, però che scena meravigliosa, se fosse vera sarebbe una scena meravigliosa. Ma quella, ma non possiamo quella saperlo. Del bacio saffico. Non lo possiamo sapere. Suo figlio cosa ha detto del bacio? Il figlio della Carlucci? Non lo sa. Come non lo sa? Che non legge. Non legge i giornali. No, li legge i giornali, ma questa gli è sfuggita, questa notizia del bacio saffico. Il bacio, lei ha mai baciato una donna? No. No, e perché c'è di male? Non c'è niente di male. No? No, infatti, certo. Ma non mi è capitato. Ti piace molto il bacio saffico, eh? Ma cosa come mai? Scena, ma secondo come te. No, secondo mi può piacere, certo, sì, mi piace. Vabbè, tu hai mai assistito a un bacio saffico? Io sì. Vabbè, questa è la zanzara 800 24 0024. No, nulla, infatti. Che c'è di strano? Non c'è nulla di strano. Vabbè. Mi piace quando cara signora Carlucci, la ringrazio molto. Abbiamo Danilo da Roma, Salvatore da provincia di Palermo, Michele da provincia di Bergamo, Antonio da Milano. Rimandiamoli tutti a domani. Ma dov'è tutta questa gente? Io non la vedo. Ma sono tutti collegati, c'è tanta gente che ascolta la zanzara. Abbiamo un sacco di gente collegata che voleva parlare. Oggi è andata così, un po' di ascoltatori in meno, ma va bene lo stesso. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Vi invito, scusate. All'inaugurazione della mostra di Romero Britto, sapete chi è? Chi era? Romero Britto è un grande artista brasiliano che però è stato scoperto a Miami. Per forza. Ed è l'ambasciatore dell'arte di Miami a Margherita. Verrà a Margherita e avremo la mostra per 2 mesi il 25 di luglio, quindi siete invitati. Romero Britto. Ci hai infilato dentro. Marchettino. A domani. Gratis, ovo, costa ovo. A domani 18:30 la zanzara. Ciao. La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non ti preoccupare. Radio 24. La passione si sente.